fotovoltaico in Sardegna c'è la Fiorani, quello che rubava i morti. Ma vi rendete conto? Le biomasse le ha prese quell'altro, Cruciani, come si chiama? Quell'altro, abbiamo una banca della BNL di Fassina, abbiamo una banca. Consorte, Dio mio! Questa pubblicità si puliscono il culo, capisci? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Siamo nella, secondo me, siamo nella, nel settore della psichiatria più che della politica. Bisogna guardarli sotto il profilo di compulsioni e comportamenti che non sono più normali. Queste persone devono andare a casa con gentilezza, consigliati da primari, che li accarezzano, devono capire che per loro è finita e devono andare via tutti. Gente che pigia un tasto per votare elettronico e non sa quello che scrive, non sa quello che legge, non sa quello che pigia, non sa quello che vota. Il paragrafo 5 modifica il paragrafo 7 del comma 17 che modifica il comma 18 della legge 15. Ecco perché il problema è neurologico. Certo. Accarezzateli. Pensano che sia un gioco della fiducia, ti do fiducia, tu mi dai la fiducia che mi ridai la fiducia. Sono parole che in bocca a queste persone sono parolacce. La fiducia a chi? A persone che hanno disintegrato questo paese da 20 anni? Ora, fin qui secondo me era stato perfetto, cioè perfetto perché è coerente con tutta la linea del 5 Stelle. Noi vogliamo distruggere quello che c'è, giochiamo un'altra partita rispetto a questi, un'altra partita. Poi a un certo punto, caro Parenzo, tu che non sai niente, che sei lì in Israele, non hai seguito nulla delle grandi cose che sono accadute oggi. No, ho visto le consultazioni. Poi a un certo punto se l'è presa. Le dette dai due capigruppo. Sì, a un certo punto. Gaff, è roba da psichiatri, è roba da rinchiuda. Ma che stai dicendo? Ma che dici? Globale, ma che dici? Solo loro pensano di salvarci. Ci salveranno loro, benissimo. Dare il governo a loro, provarli. Devono dare la fiducia a loro, farli governare per 5 anni. Mi ascolti o no un attimo? Mi ascolti o no? Mi senti? Sì. Sì, ma non senti un cazzo, non senti nulla. Allora, fin qui ho detto era stato perfetto. Fin qui era stato perfetto. A un certo punto se l'è presa con i giornalisti, come al solito. Perché sono prezzolati, perché eccetera eccetera. Lo sapete la solita tarantella, la solita tatanella di Grillo contro i giornalisti. Ma in particolare se l'è presa con uno. Con un giornalista che poi è Vasco Pirri. Il suo nome è Vasco Pirri. Lo chiama frustrato, ragazzo frustrato in conferenza stampa perché ha fatto una domanda che poi è stata interpretata come una possibile apertura per un governo pseudotecnico o cose di questo tipo. Sentite. E accarezzate anche i giornalisti che io ho sentito nella vostra conferenza stampa. Quella voce lì la conosco, di un povero ragazzo frustrato. Che deve chiedere e deve dire che ha sentito una cosa che non ha sentito per sopravvivere, perché prendono magari 10 euro a pezzo. Certo. Allora 10 euro a pezzo, dai una cosa falsa, crei una smentita, ridai una cosa falsa, una tremestita e porti a casa uno stipendio. Siamo la rivoluzione francese senza ghigliottina. Non so dove lo avete, chi l'ha detto, non è la mia, ma è veramente esprimere il concetto. Siamo la rivoluzione francese senza la ghigliottina. Siamo un miracolo che sta guardando tutto il mondo. Ma c'è chi è incorreggibile, allergico a tutto. Ancora Grillo. siamo noi i grandi francescani, ti ricordi? Certo, noi abbiamo parlato di San Francesco prima ancora del Papa. Certo. Siamo nati il giorno di San Francesco, i passi di Dio, i passi della, della politica. Sì, sì. E allora, noi vinceremo, per forza, non hanno scampo e lo sanno. Qualcuno dice che Napolitano potrebbe dimettersi prima, elezione del nuovo presidente, nuovo incarico per il governo, rinuncia, voto. Nel grande caos di queste ore c'è anche la possibilità che Napolitano si dimetta prima. La Zanzara 800240024, benvenuti in questo caravanserraglio della politica nel grande caos. Parenzo, come diavolo stai? Bene, abbastanza bene, qui nella capitale dell'Occidente, nel cuore del Medio Oriente. Vabbè, c'è solo questo da dire, che stai nella capitale del Medio Oriente, ma chi se ne frega, lo sappiamo. Mamma sono mia, in vacanza, che ti devo dire? Sei in condizioni penose, bisognerebbe cacciarti a pedate nel culo. Travaglio, alla Zanzara lei ha detto medaglia. Travaglio ci cita, ovviamente quando conviene, su Grasso. Ho anche ricordato che lei ha proposto la medaglia antimafia al Cavaliere. Lei dice che è stato un equivoco, che non è vero, quei birboni della Zanzara le hanno cavato di bocca delle parole che non voleva dire, quelli l'hanno fatte risentire, si è proprio sentito chiaramente che lei voleva dare un premio speciale a Berlusconi e al suo governo per la lotta alla mafia. Allora, lo sa che cosa poteva fare per non essere equivocato alla Zanzara? Poteva dire no, niente premi antimafia. Chi dice che Mangano è un eroe, che bisogna strozzare chi scrive i libri sulla mafia, che i giudici sono matti, antropologicamente diversi dal resto della razza umana, un cancro per la democrazia. E così nessuno l'avrebbe fraintesa. Adesso, al di là di questa seconda parte, poi Travaglio ha ragione. Cioè, abbiamo fatto risentire in cui la parola premio veniva pronunciata dallo stesso Grasso, per cui non c'è questione, non c'è discussione. Allora, ieri sera grande duello tra Vittorio Sgarbi e Massimo Cacciari da Santoro. Sentiamone un pezzo, via. Perché ti pare possibile che Berlino abbia tre volte i turisti che a Roma? Quel cesso di città che è Berlino, bombardata e senza nient'altro, una città. Non sono d'accordo, no, Roma. No, cosa? Ma devi spiegare. Spenderei perché una lancia, sì, per Berlino. Va bene, ma perché? La trovo molto interessante. 3 milioni di. C'è cioè tre volte di più a Berlino. E quante persone vanno, secondo voi, a Piacenza? Con Cacciari che diceva basta, me ne vado, ma il picco arriva adesso. Ma se n'è andato poi? Aspetta, no, sì, se n'è andato a un certo punto, credo. Comunque, sentiamo. A Piacenza, quante persone? Ma è stato qualcuno? O a Castell'Arquato? Ma stai zitto tu, che non sei stato neanche a vedere le cose di casa tua, che non sai un cazzo, nulla sai. Non sai cosa c'è nelle chiese di Venezia. Hai fatto fare il ponte di Calatrava. Tu l'hai fatto fare. Soldi buttati per un ponte inutile. Ma mi sembrava un ragionamento. Hai buttato i soldi dello Stato. Mi sembrava un ragionamento un po' più interessante. Sì, l'hai fatto tu. Vabbè, siccome fa lo spiritoso. E l'ha scancellato subito. Vittorio. Eccomo. Beh, oggi Cacciari ha detto che sei un pagliaccio. Uno che spara cazzate ed è per questo che è andato via. Capito? Ah sì, beh, io per la verità credo che abbia il diritto di dire quello che vuole, insomma. Cacciari è una personalità talmente modesta che... Perché modesta? Non so, dimmi un solo pensiero che ha espresso nella sua vita. Ha scritto dei libri... È stato un grande sindaco di Venezia, dai, su! È stato un modesto sindaco di Venezia e ha fatto la cosa più brutta che c'è a Venezia. E siccome tu Venezia la conosci, puoi fare l'esperimento con me. Il ponte di Calatrava, sì, meraviglioso. Calatrava, non solo è inutile e quello che comporta 5.000 denunce per scivolate e altro. Faccio un esempio: chi arriva a Piazzale Roma, sì, evidentemente arriva in macchina e non in treno. Chi arriva a Santa Lucia, cioè alla stazione, arriva in treno e non in macchina. Quindi non c'è nessun collegamento, perché chi arriva in treno parte in treno, chi arriva in macchina parte in macchina. Sì. Quindi la necessità di collegare Santa Lucia e Piazzale Roma è molto modesto. Ma insomma, inutile questo ponte. No, ma però fossero scollegate, no, tu fai così. Arrivi all'Hotel Santa Chiara, quello che è stato, dopo di lui, forse con autorizzazione da lui, raddoppiato con un'orribile, schifosa annessione architettonica che non si può, comunque è attaccato al ponte di Calatrava. Arrivi lì, vuoi andare alla stazione, percorri la fondamenta di San Simeone, cavalchi il ponte degli Scalzi, ci metti meno tempo col ponte che c'è che col ponte di Calatrava. Cioè il ponte è fatto soltanto per la vanagloria di quel poveretto uomo inutile che ha usato Calatrava per dire ho fatto un monumento moderno. I ponti si fanno se servono. Per andare alla Piazzale Roma, a Santa Lucia, col ponte degli Scalzi che Parenzo conosce, ci metti 8 secondi di meno che col ponte di Calatrava. Beh, allora questa perché dici? Prova provata della inutilità di quell'aborto. Perché allora, lui dice che sei un pagliaccio che spara solo cazzate? Perché non sa le cose? Lui è stato sindaco? No, perché non conosce, non sa, non so, beh, può dire quello che vuole. Io non posso dire semplicemente che basta andare a cercare le recensioni di Luca Fontana, formidabile sul Manifesto, dei libri di Cacciari. Allora, dallo Steinhoff, titolo di un libro, si è dimenticato di dire dalla chiesa dello Steinhoff, non esiste lo Steinhoff. Di più, cita in tedesco e non conosce il tedesco. Quando cita Brahms, va bene, sui dischi Decca. Quindi sono di fronte a uno che parla tedesco senza conoscerlo, che fa citazioni di autori tedeschi perché è di moda Heidegger e non conosce il tedesco, che cita Brahms in inglese. Mi sembra che basti leggere i suoi libri in cui non c'è mai niente, cioè voglio dire, il suo peso intellettuale è nullo. Cioè un finto filosofo, dici, un finto filosofo. No, un modesto filosofo sopravvalutato. Come sindaco ha una personalità che era quella che io gli sera indicavo, cioè che un uomo di cultura, un uomo di pensiero riesce ad annullare le distanze politiche, cioè Cacciari può piacere alla destra, come Muti, che è sostanzialmente un conservatore, può piacere alla sinistra. Io dicevo questo, quindi non so in che cosa si sia inalberato. Lui che parlava e insultava la Puppato, che è da 20 giorni in Parlamento, mentre lui è stato in Parlamento, al Parlamento europeo, sempre del PD, uomo di partito, e senza il partito non sarebbe stato eletto sindaco. Questo è vero, senza il partito. Sono stato eletto sindaco contro il PD, contro il PDL, contro l'autonomia. Beh, lui, lui è vero che Cacciari senza l'aiuto, però è anche... Ma i voti li ha presi, dai, su! No, li ha presi il suo partito, che lui oggi rinnega. Quindi voglio dire, io non voglio discutere... No, lui... Chiedere del pagliaccio a me è facile. Perché... Poi lui si è messo con Monti a un certo punto, no? Grande sponsor di Monti. Nelle ultime ore è ancora peggio, perché Monti è peggio di tutto. Quindi se si è messo con Monti alla fine... Beh, bisogna dire, Parenzo, che anche tu credi che Cacciari spesso faccia delle battaglie politiche che poi sono andate... No, io penso che sia un grande pensatore, ha avuto delle grandi intuizioni politiche quando fece il partito dei sindaci, ad esempio, ancora 15 anni fa. Penso che è l'unico che ha capito il fenomeno della Lega... Penso per primo, tra l'altro, è stato. Parenzo confonde una cosa, cioè l'unica vera forza di Cacciari sono le donne. Cioè in che senso? Perché conosceva le donne ed era un professore, ha scopato con molte donne, ma per dirvi una cosa, così gli aprite un capitolo nuovo. Sì, ottimo questo. Lui è stato l'amante fotografato su Oggi di una delle amanti di Berlusconi. Vabbè, ma questo è... questo capitolo. Allora, che cosa vuol dire questo fatto? Non solo è immondizia, dai. Lui ha lavorato con le donne, le quali lo hanno molto aiutato perché piace alle donne, ed è diventato sindaco con le virtù che indica Parenzo, perché aveva un nome. Quello che dicevo ieri, cioè il nome è importante. Sì. Il nome Grillo, Celentano. E che c'entra? Perché Cacciari che... Perché Bersani non funziona? Perché Bersani, quando leggevo Campanella ieri sera, non è percepito come superiore. Un leader, un principe, lo stesso Berlusconi prima di sputtanarsi con le donne, era considerato superiore. Monti è stato considerato superiore. Allora, un intellettuale ha nel suo nome un plusvalore. Il Polit Bersani è come un compagno di strada, è uno che non prende voti neanche a bettola. Cioè non ha... Beh, invece Cacciari è aiutato da che cosa? Dal nome in che senso? No, dal nome, dall'essere stato filosofo. In questo senso. Come Monti, esattamente. Ma perché il fatto che piace alle donne lo aiuta? Cioè è una cosa che ha aiutato nelle... Le donne votano, cioè come dire, lo dice la Chiavelli. Ah, ho capito. Solo le donne. Quindi... La zanzara è quell'odioso insetto. Leader politici italiani hanno sulle proprie spalle il destino del paese. Ma no. Bisogna evitare di togliersi il paese da sopra le spalle e di metterlo sotto i piedi. Chi facesse prevalere... Siamo alle vendolate. 800 24 00 24, siamo con Vittorio Sgarbi. Scusa, ma ti ricordi che si vociferò anche di una storia con la signora Lario? Sì, quella però è stata negata sia da lei che da lui. Ce n'è una invece molto più vera, documentata, documentabile, ma questo non serve tanto per parlare... Ma perché dici documentabile cosa? Che cos'è documentabile? Non ho capito. Questa cosa che ti dico dell'amante di Berlusconi che è stata amante di Cacciari. Ma chi è stamante? Questo lo cercate voi, fate voi giornalisti. Ma per dire, è il simbolo di un, come dire, riferimento alle... donne che guardano l'uomo fascinoso, guardano il filosofo, guardano il poeta, guardano... Perché c'è un precedente di Cacciari che ricorderà parecchio. Ma che c'entra questo? Argan. Sì, Argan sì. È stato un altro grande uomo di cultura diventato sindaco di Roma. Sì. Cacciari invece era il filosofo piacione che andava a letto con sì. le sue allieve illuminandole. Sì, ma sì. a quel punto intreccia una... che era stata al centro di una clamorosa vicenda berlusconiana. Sì. E su questo lui ha fatto, io ho documenti tali da farlo svenire per tutta la vita. Cioè che documenti ho, hai? Ho degli elementi molto chiari della sua come dire, adesione emotiva e sentimentale a questa come dire, mantenuta di Berlusconi. Cioè lui ha avuto una storia con una che è stata con Berlusconi. Vabbè, quale? Perché no, dovrebbe... No, non solo, ma ha fatto qualcosa di più. Comunque, cioè che ha fatto? No, dimmi. Niente, no, Vittorio, dai, questa è una casa di vetro. Io devo parlare di chiedetelo lui. Dice chi è la donna di Berlusconi in cui sei andato tu? Sei stato per caso nell'appartamento che quella donna ha avuto da Berlusconi? Vabbè, ma non c'è niente di male anche se ci fosse stato. Ma che te ne frega? A me cosa me ne frega? Dico, ma potrò dire di lui un pagliaccio? Sì, puoi ma dire no, quello... ma voglio dire, la critica deve essere politica, non su queste puttanate. No, scusa. D'accordo, lui sta dicendo però che è uno che piace, che ha avuto successo in politica soprattutto perché piace alle donne. Alle donne, non solo, ma ripeto tra me e lui, che le donne di Berlusconi sono state prima con me. Se qualche donna è andata con Berlusconi, era stata prima con me. Tutte, adesso tutte, non è possibile. No, ma io non sono mai andato con lui, invece il contrario. Cioè, prima sono passate da Berlusconi. Io sono trovate da solo e poi sono andate con Berlusconi. Mi riferisco, per esempio, a Francesca Impiglia. Non so se vi ricordate Francesca Impiglia. Come no, che poi si sposò con testimone Berlusconi. Ho scoperto io ad Arcevia. Ho scoperto io, aveva 17 anni e mezzo. Sei stata a letto con lei a 17 anni e mezzo? Sì, no, sono stato, l'ho scoperta io, ho detto. Ma che vuole? Ah, l'hai scoperta tu, questa sì. ragazza sì. era figlia del capo di Forza Italia di Arcevia, nipote del Becchino. Sì. È venuta con me per qualche settimana, mese, poi sì, è entrata sì. nell'orbita, è diventata poi segretaria di Berlusconi, fotografata a Villa Certosa mano nella mano con Berlusconi, e poi è diventata una giornalista del TG4. Vabbè. Ma io ero arrivato prima una di cosa a caso, diciamo, una cosa a caso, no? Invece Cacciari è andato con una che era già andata con Berlusconi, era stata con e di Berlusconi sì. e poi è diventata di Cacciari. Ma perché si dovrebbe vergognare per le cose? Cioè, se tu riveli delle cose, ci dovrebbe vergognare. Che cosa sai di più di... No, ma non è che l'ho rivelata io, è sui giornali, siete voi che siete mal informati. No, tu stai dicendo, io so delle cose che no, se... oltre a quello che è sui giornali, esatto. so delle altre cose. Cioè, come seduci una donna di Berlusconi? Esatto. Con quali armi? Ecco, io quelle armi che lui ha usato le conosco. E che armi ha usato? Che armi ha usato? Le armi di un buon seduttore, quindi se lui è un buon seduttore io sono contento, questo lo ha portato... Cioè, è uno che ci sa fare. Ma ci sa fare moltissimo con le donne e ha ottenuto molti voti delle donne. Ma da che punto di vista ci sa fare? Questo vorrei capirlo. Ci sa fare, perché per corteggiare una donna dovrai usare degli strumenti, dovrai... E qual è il suo strumento? Ma è semplicissimo, è la letteratura, è la filosofia, è il sapere. Vabbè, ho capito. Se tu vai lì e dici, ma tu hai letto Schopenhauer, mia cara, ma io ti leggo queste pagine. C'è uno che usa la filosofia per portarsi a letto le donne. E vabbè, ho capito. Vabbè, questo, ma io voglio dire, ma mica mi pare negativo. Ma siccome lui fa lo spiritoso, sì. sappia che con me non lo può fare. Non conosce i quadri di Venezia, non è stato nelle chiese di Venezia. Ma che ne sai? Te lo dico io, se tu gli chiedi dov'è l'ultimo capolavoro di Bellini, non lo sa. Magari lo sa. No, cioè... non lo fa sicuro, lo andrà a leggere adesso se ci sente al telefono. Ah, beh, non certo. lo sa. In compenso è un ottimo seduttore. Quindi va benissimo, dico, ma stia tranquillo, stia zitto, perché io ieri sera lo stavo semplicemente lodando come tipo sì, d'autore. Sì, ma quello l'ho sentito, sì, sì. Poi... Se tu proponi alla destra Cacciari, sì. la destra potrebbe anche votarlo, dice questo qua ha sdoganato Nietzsche. Ma tu, scusa, ma al Quirinale non ce lo vedresti Cacciari? Ma non ce l'ho da nessuna parte, al cesso lo vedo Cacciari. Mi ha sempre fatto cagare, sì. però ieri lo citavo come tipo, perché non è che lo dovrei votare io. Dico, se tu proponi... Però veste bene. Non fa a farire di pollo, è uno straccione che non si pulisce i denti, non va dal dentista. La cosa fondamentale è che non fa la pulizia dei denti, gli puzza l'alito sicuramente. Ma non va dal dentista, ha i denti storti e sporchi. Ma che ne sai? Lo si vede, lo guardi in televisione, è uno che si lava poco. Questo è il problema vero. Si lava poco. Ma perché devi dire queste cattiverie gratuite? Non gratuite, dimostrate, annusalo e guardagli i denti, siccome quando uno parla si vede come apre la bocca, vedi i miei denti. Ma ti guarda, sei sceso ad un livello bassissimo, no, negli inferi, no, sei sceso proprio. Sono sceso al dato di fatto della presentabilità di una persona che bene che si lavi e tenga i denti puliti. Lui dà del pagliaccio a me, mi pare che è sceso abbastanza. Io gli do del anche sparacazzate, anche sparacazzate, deve dire la verità. E poi è andato pure via come se no, tu fossi. Non ho niente, perché quando ha attaccato la Puppato, che poi mi ha sostenuto, le ha attribuito. Voi non avete fatto, voi che appena arrivata ha fatto il sindaco di Montebelluna fino al 2011, lui in Parlamento c'è stato con il PC e il PD, c'è stato al Parlamento europeo, c'è stato a fare la vedetta. E li ha presi i voti lui, li ha presi. No, gli ha presi il partito, non gli ha presi lui. Sì. No, no, chi è stato eletto dopo di lui, coglione? Orsoni, che non era niente. Chi era Orsoni? Li ha presi lui i voti, la gente ha scritto Cacciari sulla scheda. Il tuo zio, vince la sinistra per forza. E quindi lui ha vinto come... No, avesse vinto a destra sarebbe stato interessante. Cacciari vince con la destra, no, ha vinto con la sinistra. Troppo facile. Scusa, ma mi hanno detto che tu avevi candidato alla presidenza della Repubblica Cacciari mezz'ora prima da Santoro, o no? No, sto dicendoti questo, che io ho detto, no, ho candidato Veronesi troppo vecchio. E vabbè, d'accordo. Quindi, dopo aver letto Campanella, ovvero che gli italiani vogliono avere qualcuno che sentono superiore. Per esempio, anche Cacciari potrebbe essere un buon candidato, nel senso che prende i voti non dei politici, ma... Se lo propone la sinistra può prendere voti a destra. Se Muti lo propone la destra... Ah, in questo senso, ho capito, hai fatto una... Tu, invece di ringraziarmi, non lo voterei certo io, poi non sono in Parlamento. Sì, vabbè, certo, certo. In Parlamento occorre trovare un candidato di mediazione. Quando Berlusconi dice moderato di centrodestra... Vabbè, Riccardo Muti è una follia tua, dai, su Riccardo Muti, ma che è? Riccardo Muti nel mondo, ma non è stato presidente Havel? Vabbè, ma ho capito, in una, in una situazione particolare, Riccardo Muti al Quirinale, si può sentire, ma quello che gli frega andare al Quirinale... Non gliene frega niente a lui, perché non è una ragione di buon rappresentare un paese. Cosa pensa del paese italiano meglio che la musica? Ma sì, vabbè, d'accordo. Perché la regina d'Inghilterra non sarebbe felice. Ma Napolitano, ma uno come Napolitano deve sbrogliare questioni di cui a Muti non gliene frega niente, stare a trattare coi partiti, fare qualcosa di questo. Questo lo dici tu. Oggi Muti mi ha telefonato e mi ha ringraziato. Non è detto che. Vabbè, Muti è un banesio, pure lui, dai, è un banesio. Ma io non l'ho mica detto. A me non interessa che sia. Ma poi non sarà mai, Muti. Dai, non sarà mai, dai. Sto dicendo che quando un leader dice moderato di centrodestra... Comunque, la notizia di questa sera, la notizia di questa sera è che Napolitano potrebbe dimettersi prima, ve lo dico subito. Napolitano potrebbe non puoi dire Letta o Pera, devi dire il nome di uno di centrodestra, come avresti detto... Perché Letta che male ti ha fatto? Letta no, mai, pure te mai. Letta, impossibile. No, ma non ha senso, perché non puoi dire uno soltanto perché ha il tuo colore politico. Deve essere un moderato nello spirito. Deve essere uno che ha una visione culturale. Questo ho detto Muti. Ma quello non capisce. Ma che ne capisce Berlusconi di queste cose? Dai, scusa. Non capisce, appunto. Beh, per quello che ha detto anche Cacciari. Cioè, secondo me, se la sinistra dice Cacciari, la destra lo guarda con interesse. Se dice Prodi, no. Cioè, Prodi e Letta si equivalgono. È meglio che si lava prima di andare al Quirinale, però, Non c'è dubbio, ma non so se lo farebbe, perché per lui non si lava per cultura, è un problema culturale. Ma che dici? Ma quello è anche giusto. Volete saperne un altro, visto che ride dimmi. Visto che quell'idiota ride, Fulco Pratesi, vorrei intervistare. Sì, è vero che non si lava una volta alla settimana. È vero. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte, dorme in un tombino, c'è l'aria nel letto che mi graffia tutto. Non so dove l'ho letta, chi l'ha detta, non è la mia, ma è veramente esprimere il concetto. Siamo la rivoluzione francese senza la ghigliottina. Siamo un miracolo che sta guardando tutto il mondo. Cosa sei riuscito a trasformarlo se no? Siamo noi i grandi francescani, ti ricordi? Certo, noi abbiamo parlato di San Francesco prima ancora del Papa. Certo. Siamo nati il giorno di San Francesco, i passi di Dio, i passi della politica. Sì, sì. E allora, noi vinceremo, per forza, non hanno scampo e lo sanno. Queste persone che ormai sono finite, è finita. Noi entreremo in Parlamento, o sarà adesso o tra un po', ci entreremo, entreranno i cittadini, faremo quello che abbiamo detto nei nostri 20 punti. tutti i giornali sovvenzionati con le tasse degli italiani, e noi andremo anche lì, toccheremo e toglieremo le sovvenzioni, i finanziamenti diretti e indiretti come ai partiti. Peggio la casta oggi dei giornalisti che la casta dei politici. Certo. I politici li capisco adesso, hanno una paura fottuta, e i giornalisti cominciano a essere terrorizzati adesso, e hanno ben ragione a essere terrorizzati. I giornali di carta chiudono, le televisioni sono in deficit, il loro investimento nel loro lavoro sanno che è finito. E dunque la casta dei giornalisti, poi Grillo a un certo punto se la prende con Vasco Pirri, giornalista che segue cose di politica, perché avrebbe, dandogli del frustrato che magari prende 10 euro ad articolo, perché per quella storia della frase attribuita a Crimi, ma chi se ne frega, chi se ne frega, i giornalisti fanno anche questo, colgono gli umori, sono loro a non essere chiari. Crimi non è chiaro quando parla, non si capisce un cazzo quando parla, diciamo la verità. L'hai votato tu quello, tanto. Ma che c'entra che l'ho votato? Ma tu vedi, non confondi, per te il voto è militanza, questa è la prova provata che per te il voto è militanza. Io non sono così, io posso votare anche uno che magari in alcune occasioni non sopporto, per te invece il voto è militanza assoluta. No, per me è che se uno, come dire, almeno quel momento in cui è dentro la cabina crede in quelle cose, crede in quelle persone. Senti, crede in quel progetto, non hai capito almeno niente. Questo. Io si può votare per mille motivi, guarda, una persona se la si può votare per mille motivi, per n motivi, anche prendendo una piccolissima parte perché gli altri ti fanno più orrore della persona che vota. Ma tu ti rendi conto di che cosa hai votato? Di ma che cosa? Hai cosa? Votato, ma cosa hai contribuito? Ma devi ringraziare che c'è questo caos, ah, ti segnalo che il signor Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, ci vuole fare chiudere qua la Zanzara. Lo sai perché? Perché con quel titolo di oggi, basta giochi, basta giochini, quello che è. Ma come basta giochi, basta giochini? E qui dove andiamo? Qui se finiscono i giochi. No, come basta giochi? Beh, è così il titolo oggi. Titolo. Era meglio fate presto. Ha replicato quel titolo lì, no? Da fate presto a basta giochi, che è basta giochini, basta giochi, non mi ricordo più. L'ho letto stamattina. Capisci? Ma noi se non ci sono giochi che facciamo qui? Volete fare chiudere la Zanzara, Napoletano? Capisco anche, come dire, le esigenze del direttore Napoletano, no? Beh, ho capito, però, qui, cioè, caro Napoletano, qui chiudiamo, Sì, ma non è che dirige Comics lui, o Cuore, o un giornale satirico, ho capito, il giornale... La conseguenza naturale è la chiusura di questa trasmissione. Non è che può titolare Il Sole 24 Ore, chi, cocco, cocco, curucurucu... Però noi possiamo titolare Viva i Giochi? Ma noi no, che c'entra? Sì, non sì, è sì. Che voglio titolare non è che il direttore Viva del i Giochi, Sole, Viva i Giochi. Ma non è che il direttore del Sole può mettere Sgarbi due punti a cacciare gli puzzalanito, cioè capisci? Non è così? No, però io titolo questa sera Viva i Giochi. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. La delegazione democratica chiude la giornata di consultazioni di Napolitano, attesa per le sue decisioni. Resta aperta l'ipotesi di un governo istituzionale. Berlusconi accoglie e rilancia la grande coalizione PD-PDL. Va bene anche se la guida Bersani. Basta con i governi tecnici. Monti è stata una tragedia. Il PD Zanda, distanti anni luce, difficile ipotizzare un governo politico con loro. Scelta Civica, grande coalizione. Verifichiamo le convergenze sul programma. La delegazione 5 Stelle, non daremo mai la fiducia, disponibili solo a un governo guidato da noi. Grillo, per i partiti è finita, devono andare tutti a casa. Le famiglie non spendono neppure a Pasqua, crisi e rincari fiscali in arrivo frenano i consumi, l'inflazione rallenta ancora, le imprese 11 miliardi di rimborsi IVA. In piazza gli amici di Federico Aldrovandi, ucciso dopo un controllo di polizia, Ferrara risponde al provocatorio, sit-in del sindacato COISP contro la madre del ragazzo, primo venerdì santo di Papa Francesco, a San Pietro la celebrazione della Passione, alle 21.15 la Via Crucis al Colosseo. Ma ti è arrivata la notizia in Israele che Matteo Renzi andrà, a parte che questa sera si fa il nome anche di Renzi per un possibile governo, ma io non ci credo. Dalla De Filippi? Andrà dalla De Filippi il 6 di aprile, ma lo sai, no? È di ieri veramente. Sì, no, ma io volevo sapere, certo che è di ieri, se ti è arrivata la notizia anche lì in Israele. Beh, qui non discutono, qui, sai, avendo problemi con la Siria, avendo problemi con, sì, con Ramallah. Non discutono con, di Matteo Renzi, però ti con sei. Con Hamas, certo, il tema principale che qui viene discusso non né Renzi né quel buffone del 5 Stelle. A proposito di 5 Stelle, Crimi, che viene corretto dalla maestra delle elementari, anzi dalla supplente delle elementari Lombardi, perché quello mi sembra sia Lombardi, una bella supplente delle elementari, quella di matematica, antipaticissima. Sentite. Ripeto, come ha già detto l'onorevole Lombardi, noi, la nostra, la cittadina Lombardi, la nostra richiesta è di avere l'incarico per formare un governo a 5 Stelle sulla base di un programma che parte da quei 20 punti che abbiamo già anche letto la volta scorsa. E lasciala passare questa, Lombardi, su, e ha detto una volta onorevole, e che diavolo. Poi sta parola cittadino, non so chi l'ha detto da qualche parte, chi l'ha scritto, lo rubo da qualcuno. Cioè, era una bella parola, adesso l'hanno fatta diventare una roba impronunciabile, la cittadina Lombardi, cittadino, no, Gremi. Basta! E quanto di più demagogico ci possa essere, ma questa idea, proprio forse la rivoluzione francese. A parte che la rivoluzione francese, anche senza ghigliottina, non è che fosse proprio fantastica, no? Appunto, no, io lo dico in senso negativo, cioè non era il massimo del liberalismo. La questione della maestra, adesso mi sono ricordato, la maestra delle elementari è di Enrico Vaime, eh? Enrico Vaime, maestra delle elementari. Quella supplente di matematica, come si chiama? Lombardi. La Lombardi. E chiunque supplente di noi ha avuto alle medie una supplente identica. Io supplente di matematica. Davide da Mantova, 800 24 00 24, siamo qui, viva i giochi, viva i giochi, titolo della Zanzara, altro che basta giochi, viva i giochi. Davide da Mantova, buonasera. Vada. Io ho perso gli ultimi minuti di trasmissione perché dalla macchina dove mi trovavo sono uscito, ma io è uguale. Davide, vada. No, io ho chiamato per esprimere due concetti sinteticissimi. Sì, studiato 6 mesi in Germania da ragazzo, sono 20 anni che lavoro con la Germania e a volte soggiorno spesso per ditte rinomate, eccetera. Io mi sono scandalizzato di due cose prima. Sì. Di sentire una persona come il signor Sgarbi dire parolacce a una città come Berlino che ha più turisti di Roma. Vabbè, quello ieri sera, poi? No, e io volevo soltanto dire due cose. La prima, se noi italiani non capiamo perché Berlino ha più turisti di Roma, è meglio che ci informiamo, perché io vi dico, mia esperienza personale, Roma è la città più bella del mondo, ma Berlino non solo non ha nulla da invidiare in quanto musei, ma ha capito come si fa a tirare. Vabbè, d'accordo, su Berlino è una querelle poco interessante. Poi, Davide? No, la seconda è che da ascoltatore di Radio 24 spero di ascoltare, io volevo soltanto segnalare contributi che appunto non riguardano querelle alla ha capito, cioè vorrei che mi aspetto spesso che il livello del discorso sia non se Berlino è una città di M o meno, ma capire perché lo è o non lo è. Vabbè, vada a Rai Educational. Grazie. Fabio da Como, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo solo dire questo, mio figlio che ha 8 anni, sì, ha capito, può ottenere molto, ma se pretende troppo non ottiene nulla. Ma Grillo è in queste condizioni, cioè? Può incidere nella vita politica italiana, alle prossime elezioni, se andremo presto a votare, 8 milioni di voti non li prende. E vabbè, quello, Fabio, quelle sono le sue idee, vedremo. Ah, io sono, è chiaro, è la mia idea, però avrebbe la possibilità oggi di decidere lui. Domani il PD candida Renzi, il PDL Berlusconi, Grillo e Grillini, vince Renzi. L'unico vantaggio politico di Grillo è aver accelerato l'ingresso di Renzi in politica. Vabbè, ma lei adesso vuole fare, sa, gli italiani, oltre a essere tutti quanti allenatori della nazionale, sono anche tutti politologi. E immaginano. No, oggi Vendola dice un fatto di responsabilità, mettersi responsabilità sulle spalle. Ma che è un c'entra fatto di la responsabilità? Ma non la responsabilità, sì, ma chi lo dice? Scusi, la responsabilità. Grillo ha una convenienza politica a scendere a patti oggi. Ma quello secondo lei, secondo lui invece no, ma scusi un attimo però, abbia pazienza, perché si vuole attribuire a Grillo la responsabilità di non fare nascere il governo? Grillo ha sempre detto che non darà mai la fiducia a questi partiti, li considera morti, l'ha sentito oggi, sono morti. Com'è che ha detto Parenzo, scusa? È vero. Parenzo, come ha detto? Sono morti, tutti morti, completamente morti, finiti, bisogna abbracciarli e mandarli a farli in culo. Beh, ma oggi ha 8 milioni di voti, domani se continua così non ce li ha più, quindi sta buttando via il suo patrimonio elettorale. Grillo, glielo vuoi spiegare a questo ascoltatore? Grazie, me lo spieghi. No, Grillo, è un mondo che non esiste più, è tutto finito, tutto, questa gente qui deve andare a casa, pedate nel culo, il Quirinale è chiuso. Ma oggi che cosa ha detto a Napolitano? Scusi, c'è stato un pare una conversazione telefonica, Grillo. A Morfeo, lì al signor Napolitano. Ma ha detto che non lo chiamava più Morfeo. Ma uno che si chiama, ma lì col signor Cascella, ma come si fa uno a chiamarsi Cascella? Cascella! Ma che c'entra, povero Cascella? La voce di chi? Che non dice mai un cazzo, la voce di chi? Porta? Ma che c'entra, quello è portavoce. Ma non porta la voce di vabbè, adesso, a parte Cascella, cosa vi siete detti? Abbiamo detto che devono dare il voto e l'incarico al Movimento 5 Stelle, dobbiamo governare noi, noi. Ho capito, però gli è complicato. Sono finiti, solo noi siamo. Ma com'è stata questa conversazione? È durata 5 minuti, gli ho fatto vedere come funziona un iPad, ho chiamato Casaleggio. Ma era al telefono, come ha fatto, come ha fatto a far vedere come funzionava un iPad? Era per Skype, ma non capite un cazzo, c'era Skype, c'era Casaleggio che è collegato 24 ore su 24 con Skype, l'altro giorno si stava facendo il bidet, ha mandato tutto in rete, tutto in rete. Abbiamo messo tutte le cimici dentro il Quirinale, noi vediamo anche i boxer di Napolitano, tutto si deve sapere. Tu, la signora Clio, quando mangia e usa lo stuzzicadente si deve vedere tutto, tutto in rete. Gerani, mettiamo Gerani sui Balcani che tengono lontani. Oh, intanto Parenzo, a Berlusconi va bene tutto, purché ci sia lui dentro, purché conti qualcosa, ma questo è normale, sta mettendo nel sacco tutti fino adesso, dal punto di vista tattico, dal punto di vista tattico. Era dato per morto, era dato per morto un anno e sei mesi fa, adesso è lì che ancora dà le carte. Pensa quanto fa venire il sangue al cervello a un sacco di gente, è ancora lì che dà le carte, che distribuisce le carte. Berlusconi, dimmi se non è un genio da questo punto di vista. È un genio. Ma no, è un genio assoluto, ancora distribuisce le carte, è anche frutto di quello che succede, cioè Bersani è lì che brancola nel buio alla ricerca di qualcuno che lo voti, quell'altro vuole sfasciare tutto ed è solo contento, sì, di vedere insieme, è anche aiutato, certo. Diciamo che Berlusconi è aiutato dalla situazione, non ha nessun interesse ad andare al voto perché altrimenti vanno tutti a processo. Intanto senti questa, a Berlusconi che dice va bene anche perché non vanno tutti a processo se vanno al voto. Tranquillo, va bene anche Bersani, non hai capito niente, aspetta. Noi siamo disponibili a che il Partito Democratico avanzi una sua candidatura, ci va bene assolutamente la candidatura del segretario Bersani, così come ci vanno bene anche altre possibili candidature. Tutto qua. Beh, intanto c'è un grillino che ieri è andato dalla D'Urso, Un grillino che è andato dalla D'Urso. L'ho visto. Signor Mastrangeli. L'ho visto in rete. È andato dalla D'Urso, se n'è sbattuto del diktat di Grillo. Fatto bene. Siciliano, senatore siciliano Mastrangeli, che votò Grasso, dunque già eretico. Adesso forse lo cacceranno, forse no, certo, adesso ci sono altri problemi a cui pensare, però la cosa ovviamente non è piaciuta ai vertici. Grillo e Casaleggio valgono uno. Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio valgono uno, come valgo io, come vale uno qualsiasi iscritto al Movimento 5 Stelle. E questa è una cosa positiva, io l'ho sempre detto, no? Il fatto che Beppe dica che uno vale uno è una cosa positivissima. Bella, infatti lo è. Ciao, io esco, dove vai? Vado a prendere la Pravda, c'è in omaggio il telefilm di Rin Tin Tin. C'è in omaggio lo stregone Rasputin, sì, c'è in omaggio l'astronauta Gagarin. Zan, zan, zan, zan, zan. non c'è nessun pericolo di quelle cose che abbiamo letto sui giornali che si dicono che poi loro si arrabbiano perché è venuto a parlare con me, no. No, e perché? Ma lei è una giornalista, lei è una cittadina, scusi, se mi fa una domanda io le rispondo. Ho capito, però lì c'è una specie di diktat, non partecipare ai talk show. Poi lui oggi ha detto non sapevo che c'era anche la Santanchè, a parte che ha parlato solo con la Durso e non con la Santanchè. Comunque sto Mastrangeli sarà cacciato, è evidente che sarà cacciato, no? Ma tu ti rendi conto questi qui? Ma qual è il problema? Se tu hai deciso di aderire a un movimento e lì c'è scritto che non devi andare ai talk show, non ci vai e non rompi i coglioni, punto. Se ci vai, vai a casa. Siccome ti sfugge un principio, caro Casaleggio Cruciani. Ma non è Casaleggio. Siccome, caro Casaleggio Cruciani, siccome Casaleggio Cruciani, non Cruciani Casaleggio, perché tu sei più di Casaleggio. Casaleggio. Allora? Più di Casaleggio. Viva i giochi, titolo della Zanzara, altro che basta giochi. Viva i giochi. Siccome uno vale uno, sì? Quello ha diritto di andare dove gli pare, perché ha ragione quando gli ha detto uno vale Grillo, uno vale Casaleggio. Uno sì. Vale uno. E allora? Aspetta che sta uscendo il partito, fra poco esce il Partito Democratico, eh? Quindi lo cacciassero dopo una consultazione diretta, non perché lo dicono i due sovrani. Vabbè, Michela dalla provincia di Latina, buonasera Michela. Eh no, uno vale uno. Buonasera, sì. Buonasera Cruciani, dottor no. Cruciani. Allora, voglio dire due o tre cose. La sì. Prima è, me la conceda, sì. Che la radio non le rende onore. Io l'ho vista alla trasmissione Passaparola. Passaparola e... no, perché non vado, non so, sì, non c'è più una trasmissione. La... No, Pappagone, mio nonno, si chiama Paragone, no. Come, ecco, bravo da Paragone, bravissimo, lei è bravo e acculturato. Allora, ma l'ho vista c'entra? Da Paragone. Un minuto, se lo può fare un complimento, se no vado avanti. No, ma lei può fare tutti i complimenti, a parte che ecco. Non mi piacciono i complimenti. Michele, vabbè, dalla voce sembrava un vecchio, invece è un bel invece, giovane. Detto ciò, vabbè, andiamo a parte avanti. Che non sono giovane per niente, ma comunque. E sì. Però sembra un bel ragazzo. Lei, come lei quanti anni ha, scusi, Michele? Io 38, sono una bellissima donna anch'io. Ma chi l'ha detto che è bellissima? Andiamo avanti. E me lo dico da sola, è meglio di me. Parenzo, scusi un attimo, ma uno come fa a darsi del bello così, senza una prova? Si vede che ha un'alta considerazione di se stesso, esatto. E ha ragione. Bravo Parenzo. Beh, ho capito, non è che uno dice, chiama e dice io sono bellissima. Sono mi ha detto che anche lei è carino, dovrebbe essere contento, non vabbè, le ho ma detto. Sa, non è che sia... vabbè, andiamo comunque. Avanti, non andiamo. Le piacciono i complimenti. Comunque, andiamo che uno abbia un'alta considerazione di se stesso? Sì, per carità, non dico io niente. Io ti dico di più, io se mi considero mi deprimo, se mi paragono mi esalto però. In che senso? Ti paragona altrettanto. Ti paragoni a chi? Scusa, tu sei bruttino. La che ti regalo da Israele oggi sì, è che io, se mi considero, mi deprimo. Un attimo, sentiamo Letta. Tradizionale, un esito politicista, un esito che si rinchiudeva in vecchi schemi. Ecco perché abbiamo cercato il coinvolgimento di tutti attraverso la scelta di una convenzione costituente. Lì dentro... fare la riforma della politica convenzione. Che è la convenzione resa necessaria da un risultato che è stato così la clamoroso. L'assenza di credibilità della politica e delle istituzioni in questa la fase convenzione costituente. Ha sicuramente portato gran parte di quell'esito elettorale. Vabbè. Il coinvolgimento di tutti dentro sentiamo. Un percorso vabbè. Di riforme costituzionali a partire sì. Dalla nascita del Senato delle Regioni. Vabbè, sentiamo dopo Letta. E Michele, allora? Allora, viva i giochi, come dice lei, dopo aver sentito Letta, viva i giochi. Detto ciò, allora, volevo riflettere su un paio di cose. La prima, il concetto di cittadino. Il concetto di cittadino, civis romano. Sì, adesso non mi faccia non mi attacchi la pippardella sul congresso. No, il concetto di cittadino di onorevole, no? Che Grillo, voi dite, era tanto bello onorevole, ora perché cittadino, qua, là. Sì, una cosa che ha detto già Beppe Sevenini qualche tempo fa, ma non è che volevo dire la stessa cosa. Volevo dire semplicemente che adesso questo termine mi sta cominciando a diventare antipatico. No, ma io non la sto attaccando, le sto vabbè, dicendo allora... che avrebbe valore qualora cittadino o onorevole avesse il suo vero valore etimologico. Uno honor portasse l'onore vabbè, e l'altra. Poi... Detta seconda cosa, Sgarbi sì. Che tanto attacca Cacciari, ecco. Che attraverso la si porta a letto le donne attraverso la filosofia Schopenhauer, lui se le porta a letto attraverso l'arte, ognuno se le porta a letto con i mezzi che ha, giusto? Sì, giusto. Quindi voglio dire, fare tanta critica a Cacciari perché utilizza la filosofia e diversamente da lui cosa fa? utilizza l'arte, no? Mi pare che utilizza l'arte, utilizza un eloquio sempre di attacco, e questo è un attacco a Sgarbi. Per quanto riguarda Grillo, io in tutto questo casino volevo sapere innanzitutto da Parenzo, lui chi voterebbe? Critica tutti, è Berlusconi così, votato, è Bersani ha votato così, partito e Grillo cosa? Ha votato Partito Democratico, grazie Michela. Carmine da Pescara, arrivederci. No, Michela. Carmine, se avessi votato avresti votato PD. Carmine da Pescara, ma l'hai detto tu, l'hai detto in diretta qui, Carmine da Pescara. Io ho detto che avrei votato alla Camera, probabilmente. Guarda, ho la registrazione, Carmine da Pescara, e buonasera. Al Senato, Partito Democratico. Buonasera, Gianni. Vada. Buonasera. Dica. Innanzitutto volevo dire che la trasmissione mi fa sempre ridere. Bene, poi? È diventata comica questa trasmissione. E in più da lei vorrei sentire qualche critica concreta. A chi? Cioè, a chi? A chi se lo merita in questo momento? Cioè a chi? Innanzitutto al signor Berlusconi. Lei non ha mai, diciamo, messo in dubbio le sue qualità, quello che ha fatto in questi ultimi... Lei non ascolta questa trasmissione, mi dispiace. Sì, io sono parecchi anni che l'ascolto. Allora ascolta male, o vuole ascoltare solo quello che le conviene, o solo quello che le fa comodo, o solo quello che risuona più simpatetico con lei, insomma, con le sue idee. No, assolutamente, guardi, io mi permettevo di dire... Vabbè, poi vado avanti. Ed inoltre... Era giusto prima che prendesse un attimino le difese di chi era assente in trasmissione, che era il professor Cacciari. Cioè, secondo me Sgarbi si è comportato... Allora, intanto la delegazione del Partito Democratico lascia il Quirinale, governissimo non sarebbe scelta idonea, ma insomma non ha detto niente di nuovo, non è successo nulla di nuovo. Adesso si attendono ovviamente le decisioni di Napolitano. Allora non ho capito, Carmine. Cioè, volevo... Prendesse un attimino le difese di Cacciari, essendo assente in quel momento in trasmissione, a Sgarbi ha permesso di fare il bene e il cattivo tempo di una persona che secondo me non è quello, diciamo, come l'ho descritto Sgarbi. Va bene, grazie. Andiamo a... Dove andiamo? Luigi da Pisa, buonasera. Buonasera. Il cavaliere che era definito morto, di cui io non ho grande stima, però quest'uomo va dato un atto che è riuscito a risuscitare dalle sue ceneri. Sì. Stasera ha dato scacco matto alla regina perché, come dice lei, ha dato le carte. E ora sicuramente questa politica, io ho votato il Movimento 5 Stelle e non rimpiango, questa politica farà di tutto, pur di rimanere a galla, vedrà che il prossimo Presidente della Repubblica sarà Berlusconi. Sì, ma quale Berlusconi? Cioè, c'è una cosa, guardi, impossibile che Berlusconi venga eletto Presidente della Repubblica, è una cosa impossibile, guardi. Guardi, se la sinistra fa anche questo, poi secondo me poi veramente sono morti per sempre. Peccato che hanno perso la grande occasione di Renzi. Ma io non ho capito, secondo lei sarà Berlusconi e poi mi dice se la sinistra lo fa, ma non c'è nessuna possibilità. Ma guardi, la politica è trasformismo totale, si ricordi questo. Vabbè, ho capito, ma Berlusconi Presidente della Repubblica votato dal PD, ma lei è pazzo, cioè di che stiamo parlando? Probabilmente io sarò pazzo, ma si pur di rimanere a galla, si ricordi, fanno tutto. Ma che c'entra? Io toglierei probabilmente. No, ma in che senso? No, ha detto probabilmente sono pazzo. Io toglierei probabilmente, metterei un punto esclamativo, cioè direi sono pazzo per signore. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Non si capisce se Napolitano parlerà oppure no, eh? No, chiedo scusa, però io darmi un chiarimento, perché sto seguendo tutto attraverso le agenzie e l'iPad. Sì, dimmi. Ma siccome sono qui lontano a Tel Aviv, nel cuore del Medio Oriente, non riesco a capire che cosa ha detto Letta. No, non lo so cosa ha detto. Ha detto governissimo non sarebbe scelta idonea, che già si sapeva. Ha fotografato la situazione, non ha detto però nulla. Scusa se ti interrompo, se uno dice governissimo non sarebbe scelta idonea, come dire tu non sei completamente uno stronzo, ma allora sei un po' stronzo, ma non completamente, quindi... No, non ho capito. Poi tra l'altro ha evocato di nuovo questa roba della convenzione, cioè a un certo punto per sbloccare la situazione. Capito. Puoi spiegare a un poveretto come me che è lontano dall'Italia? No, non lo voglio cosa spiegare. Cosa vuol dire? Perché cosa vuol dire? Non sarebbe scelta. No, poi a un certo punto ha detto abbiamo cercato coinvolgimento di tutti con scelta della convenzione costituente, cioè volevano fare ma non ci siamo riusciti. Ma è come se io dicessi non sei completamente stronzo, però un po' stronzo sei. Ti ha beccato. Come ti stendi nel letto, quel noioso insetto passa dall'orecchio e sempre gira. Allora, siamo con il senatore Carlo Giovanardi da Modena, PDL. Buonasera, sì. Giovanardi. Buonasera, come va? Bene, lei? Come va? Sì, bene, grazie. Senta, ma lei il governo col PD lo farebbe subito? Io faccio parte del PDL, faccio parte anche dell'Italia, che sono un italiano. E beh, che c'entra che è italiano? No, devo dire che sono preoccupato del paese in cui vivo, quindi o si fa un governo così o si va alle elezioni. Sì. Poi se si deve andare alle elezioni ci si va, però... Certo, lei con Bendola insieme non ce lo vedo, caro Giovanardi. Mi dica. Abbiamo visto anche di più audace nella storia dell'Italia. Il matrimonio tra 45, Giovanardi... 45, 46 governi... È finita la guerra fra persone che si erano sparate addosso fino a pochi giorni prima. Sì, però il matrimonio Giovanardi Vendola non lo vedo. Abbiamo visto, infatti non ci sarà il matrimonio. Infatti quel governo che nasce, se nasce, non sarà per fare il matrimonio o altre cose che sono fuori dalla visione dell'uno o dell'altro partito, sì, ma per fare quelle tre o quattro cose di cui si parla per tornare poi con una nuova legge elettorale al voto, questo è chiaro. Comunque, sempre insieme dovete mettervi comunque, un po' insieme dovrete stare, al limite fate una limonata. Ogni mattina che scherziamo, 60 milioni di italiani, insieme ci stiamo. Cioè una limonata dovrete farla. Ogni giorno c'è questa convivenza fra grillini, gente di sinistra, gente di centrodestra in Italia. No, ho capito, però una piccola limonata con Vendola, dal punto di vista metaforico ovviamente. Vabbè, metaforico non c'è dubbio. Una dovete farla, ecco, che magari non è un amplesso completo, ma un piccolo, una piccola cosa. Sì, un bacio con la lingua. Un bacio con la lingua lo dovete, cioè, sennò altrimenti che inter... dai, i due disturbati sessuali di nuovo. Ma no, come distinzione, ragazzi, persino da Tel Aviv. Vabbè, quella è da Tel Aviv. Guardi, a Tel Aviv sono serie. Molto più laici che in Italia, è la capitale del Gay Pride, Tel Aviv, figuriamoci. Beh, grande, grande capitale del Gay Pride. È vero, eh? Sì, lo so, ma in Israele è pieno di circoli, di... Sinceramente a me in una giornata come oggi Gerusalemme mi viene in mente per altre vicende storiche un pochino più importanti, un pochino più... No, certo, che c'è dato un segnale un po' più forte alla storia dell'umanità, però ognuno gli viene in mente quello che gli capita, eh? No, ma è per dire che è una società secolarizzata, aperta, laica, liberale. Comunque, bye bye Bersani, mi pare di capire, bye bye Bersani, caro Giovanardi, mi pare di capire. Così, anche perché le ultime parole che ha detto Letta, dicendo noi poi alla fine ci affidiamo in maniera totale alle decisioni del capo dello Stato, che è lasciato dai palettini, anche giusti, perché... Ma si può dire che Berlusconi l'ha messo nel sacco a tutti, anche in questo caso, dal punto di vista... Ha fatto credere che forse poteva dare la fiducia, che poteva, poi alla fine, zac, all'ultimo secondo, ha bloccato tutto. No, Berlusconi è stato lineare. Detto che avrebbe potuto dare la fiducia se qualcuno ce la chiedeva. Ho capito, ma questi pensano che siete impresentabili, capito? Cioè loro vi trattano come degli impresentabili, poi dice, vabbè, vi diamo la convenzione appunto, delle riforme, così, appunto, una cosa vaga che poi andava a morire chissà quando, no? Esattamente così. Parenzo, ci sei? Sì. Perché oggi non è andato a manifestare insieme a Ferrara, insieme ai giovani a favore di Aldrovandi, contro questa vergognosa manifestazione della polizia dell'altro giorno? Di un sindacato della polizia, Giovanardi? Sarebbe stato un bel... Perché oggi non è andato a manifestare contro quella vergognosa parata dell'altro giorno di un sindacato? Io non c'ero né ieri o ieri l'altro né oggi. Beh, quello... Anche se devo dire che sono preoccupatissimo, perché quello che emerge, che leggo dai giornali, dalla televisione, dal solito circuito mediatico, su quello che è accaduto, e che io rispetto quello che c'è scritto nella sentenza di condanna, non lo trovo. La sentenza di condanna dice una cosa molto grave, cioè che dopo una battaglia di periti, è durata in tribunale per mesi, tra chi periti diceva che nel momento in cui è stato immobilizzato per terra il giovane Aldrovandi, il decesso era in qualche modo imprevedibile, e invece il perito, il professor Tiene, ha detto che invece l'imperizia dei tre poliziotti e della donna che l'ha tenuto fermo ha causato il decesso, quindi omicidio colposo. Io oggi ho sentito parlare di tortura, ho sentito parlare di... Io non ho capito, secondo lei non è morto per le botte Aldrovandi? Assolutamente no, basta leggere la sentenza, infatti è omicidio colposo. Aldrovandi ha avuto una condanna, Aldrovandi, i poliziotti, che neanche assimilabile a quella di Grillo, che ha coppato per omicidio colposo ed è stato condannato fino in Cassazione per aver ammazzato padre, madre, un figlio, uscendo di strada con un fuoristrada. Ma Grillo non è andato in carcere, perché con una condanna per omicidio colposo, cioè per negligenza e imprudenza, in carcere non ci va nessuno. Cioè, secondo lei è sbagliato che questi qua siano in carcere? Allora, secondo me, questi qua hanno fatto un errore, stanno pagando il loro errore. E vabbè, d'accordo. Questo... Giusto, come giusto rispettare il dolore di una madre che ha perso il figlio. Certo. Ma questi qua non sono andati là, non ci sono andati perché ci volevano andare. è perché i cittadini hanno telefonato, hanno segnalato una situazione, sono intervenuti, era una situazione di emergenza che magari hanno affrontato male, ma hanno dovuto chiedere rinforzi perché non ce la facevano da soli. Se cioè, secondo lei è anche un po' colpa di Aldrovandi, scusi, mi pare di capire. Ma io leggo. È anche un po' colpa di Aldrovandi quello che è successo, perché aveva bevuto, perché era su di giri. Era in una situazione di alterazione. E quindi che ha provocato le telefonate dei cittadini, che ha provocato l'intervento della polizia, sì, che ha provocato tutto questo. Dunque è stato un po' colpa sua. In Parlamento oggi, caro Cruciani, sì, si vuole fare il reato di tortura e esplicitamente si dice che bisogna introdurre il teatro. Vabbè, quello è un altro discorso. Facendo riferimento a caso Aldrovandi. Sì, a me, qualcuno. Ma è normale. Come quelli di Aldrovandi, aspetta, come casi di tortura, quindi applicare l'ergastolo. Questo chi lo dice? Se non mi ricordo bene. Abbiamo fatto il dibattito in Parlamento 4 mesi fa, deputati del PD e senatrice del PD insistevano e ci sono comitati. Vabbè, ma quello però non sono stati condannati per cose di questo tipo, sono stati condannati per omicidio colposo. La cosa micidiale che sta succedendo in questa contrapposizione, sì, tra parte della polizia dei carabinieri, è che poi una moglie per esempio, sì, di uno degli agenti che adesso stanno in carcere, sì, che cosa hanno detto ieri in una riunione sindacale? Poliziotti, carabinieri, finanzieri, quanto vi chiamano? Perché ci sono situazioni nelle quali, sì, la vita dei cittadini è messa in pericolo e dovete intervenire, voltatevi dall'altra parte. Cioè il pericolo adesso è questo, secondo lei, che adesso quando chiama qualcuno quello ho capito, ma secondo lei c'è questo pericolo adesso, chiama qualcuno ed è quasi giusto che un poliziotto non ci vada più se rischia una condanna grave, questo vuole dire lei? Se il poliziotto interviene, sì, con imperizia è giusto che sia condannato, no, d'accordo, però il pericolo qual è? Invece diventa tortura, diventa un meccanismo che da Giuliani, sì, e sappiamo tutto quello che è successo al caso Aldrovandi, al caso Cucchi, viene utilizzato, sì, per stabilire che se un poliziotto, un agente, un carabiniere interviene e malgrado una condanna che circoscrive la sua responsabilità a un omicidio, sì, colposo, cioè secondo lei in galera non dovevano andare perché per omicidio colposo per esempio Grillo non è stato con quel tipo di reati in galera, allora in galera non ci si va. Intervista della madre di Aldrovandi, sì, che dice devono essere cacciati dalla polizia. Beh, questo sarebbe anche giusto, no? Se ne devono andare. Allora, se un poliziotto, un carabiniere che interviene in un caso appunto in cui deve intervenire con la forza per immobilizzare una persona che ha comportamenti che sono stati segnalati e per i quali è stato richiesto il suo intervento. Sì. Nel caso in questo intervento succede un evento che poi i pariti devono stabilire. No, hanno stabilito, ci sono delle condanne. E per questo deve rischiare, sì, di essere accusato di tortura. Ma quello è un altro. Ma lasci perdere la tortura, perché questi qua non dovrebbero andare via dalla polizia? Uno che ha commesso delle gravi imperizie. Se uno in macchina fa un omicidio colposo vuol dire che non c'è dolo, vuol dire che c'è un'imprudenza. Ho capito, allora, ma sono poliziotti, non è lei. Una persona, mentre fa il poliziotto, gli tolgono la patente probabilmente a vita. Deve essere licenziato dal suo posto di lavoro. No, che c'entra il posto di lavoro? Paghi, è giusto che venga condannato. Certo. È giusto che venga trattato nella sua condanna esattamente uguale a tutti quelli che commettono un reato dello stesso tipo, sì, senza che ci siano né particolare accanimento, sì, né particolare trattamento di favore. Però Quindi, io non ho capito una cosa, Giovanardi, scusi un attimo, la cosa che voglio capire è questa. Lei dice non dovevano andare in galera, non dovevano essere in galera. Vabbè, questo, guardi che sono stati anche fortunati, perché se vai a vedere la realtà delle cose, c'è stato anche un indulto. Cioè in realtà sconteranno che faccia Cruciani, mi risponde Cruciani, per un omicidio colposo chi va in galera in Italia? Ma non lo so, lo dico io, nessuno. Ma c'è stato accanimento allora nei confronti di questi poliziotti? Se è dimostrato che per omicidio colposo nessuno va in galera, non si vede i motivi per i quali debba essere applicato un regime diverso. Oltretutto l'Italia è un paese in cui Io non ho capito, secondo lei perché l'hanno mandati allora agli arresti? Perché c'è accanimento? Perché purtroppo c'è la giurisdizione, quella di Padova e gli arresti, perché la magistratura di Padova ha detto è giusto che vada agli arresti domiciliari. Ma allora, quella la penso invece in maniera diversa. Capito, perché c'è stato un accanimento mediatico, una pressione mediatica, per questo sono in galera, secondo lei? Allora, che la pressione mediatica, come dal caso Calabresi in avanti, abbia un peso nel nostro paese, lei sa che c'è il comitato Giuliani, sì, la cui madre divenne senatrice, sì, e che fecero una sala del Senato intitolata Carlo Giuliani. Ma è un rischio che corre, anche la madre. Carlo Giuliani, che abbiamo visto tutti per televisione, nel momento in cui il poveretto ha perso la vita, la cosa stava facendo, sì, stavano rinunciando dei carabinieri, continua a sostenere che Carlo Giuliani è una vittima della repressione della polizia, perché deve essere trattato come un esempio. Scusi, ma Aldrovandi non è una vittima? Scusa. Allora, condanna giusta, però sono anche vittime per certi aspetti. Chi? Dopo aver pagato sì. giustamente sì. Con una condanna sì. il loro comportamento, e quelli che per colpa, facendo il loro dovere, magari facendolo male, si sono preso una condanna. Sono vittime anche loro, ma sono colpevoli, non sono vittime anche questi poliziotti, sono colpevoli, Giovanardi. Allora, benissimo, allora il ragionamento che viene fatto è che in tutti i casi, che sono decine, sono centinaia, che i carabinieri e i poliziotti devono intervenire. Ma quello che c'entra, ma magari intervengono in maniera normale, magari intervengono senza ammazzare nessuno, Giovanardi. Lei stasera incontra un extracomunitario, un italiano, io non faccio un poliziotto, un ubriaco, uno che aggredisce una donna, uno che allora? Sta facendo una rapina sì. e deve intervenire con la forza per bloccarlo, se cosa le dico io, Cruciani, ci vadrai a bloccarlo, perché se nella colluttazione mi succede che questo ho un infarto, per esempio questo signore con il quale io ho la colluttazione ha un infarto e arrivi il professore che spiega che l'infarto è stato determinato, secondo lei questi sono colpevoli o no, oppure lui è morto per caso, oppure è morto perché era ubriaco, perché era alterato, ha detto che nel momento in cui lo hanno bloccato ed era steso per terra la posizione in cui l'hanno tenuto può determinare, secondo il professor Tini, volta dalla corte, mentre altri periti hanno sostenuto esattamente il rovescio, cioè che era impossibile che quel tipo di posizione potesse determinare la morte. Intanto Napolitano si prende un momento di riflessione. Inutile dirti il collegamento che avremo più tardi. Ho la garanzia, Parenzo, ho la garanzia assoluta. Sì? Sì, ho la garanzia. Ho la garanzia di... Non anticipare nulla. Non ti preoccupare, non dire nulla. Restate con noi e avremo veramente non uno scoop di quelli che abbiamo fatto negli ultimi giorni, ma di più. C'è ancora più in alto. Ma tu hai saputo che abbiamo rivelato il piano segreto del Partito Democratico di ristrutturazione dei costi? Sì. Ho visto tutto su da Israele. Da Israele hai visto tutto? Sì, no, che da Gospia che c'entra? I giornali, le agenzie di stampa, le cose? No, tanto per chiarirti un po' di cose, no? Ho visto fiumi di inchiostro su questa cosa, questo documento segretissimo. Bene, documento segretissimo, svelato dalla zanzara. Ma chi te l'ha dato, la CIA? Beh, le mie fonti, mica sto qui a non è che sto qui a pettinare le bambole, come si dice in gergo. Pettinare le bambole. Ma perché non dedichiamo quest'ultima parte della revisione al problema dell'Iran? Ma che ultima parte? Mancano un'ora, ultima parte del mio. Tu hai il fuso orario israeliano. No, cioè, manca un'ora. Un'ora sono manca. Come uno stronzo da solo in albergo, e qui sono le 22. È giusto, ma no, le 22, come le 22? Due ore? Non capisci niente. Ieri c'è stato, ti ho spiegato. No, ma sono due ore, sono? Cioè tu mi stai dicendo che io ti inchiodo fino alle 23? Ma come sono contento di questo godo. Come sono contento, guarda. Tutta la serata fottuta. Ma amico mio, ma sei tu che decidi di andare in Israele. Non è che ci vado io in Israele. Sei tu che decidi di andare in Israele mentre devi lavorare alla radio. Ma io lo capisco. Ti abbraccio forte. Io ti abbraccio fortissimo. Però qui Giovanardi, glielo spieghi lei. Giovanardi, non è che stiamo qui a pettinare le bambole noi. Giovanardi sta a Modena. Ma Giovanardi per i fatti suoi a mangiare i tortellini e a sparare sui morti, pensa te. No, ma che c'entra? Qui lavoriamo, stiamo lavorando. Io lo dica a Giovanardi. L'ultima frase di Parenzo. No, ma se sta scherzando. Parenzo vuole speculare sui morti, si sta speculando lui. No, sta scherzando, no, Giovanardi. Scusami, che la madre di Giuliani è finita in Parlamento perché quello è morto. Stai calmo un attimo solo. Non ho detto questo stasera. Ho detto che Giovanardi, Carlo Giuliani lo considero una vittima, ha perso la vita, non lo considero un eroe e neanche un esempio. Ha detto che non considero un eroe un esempio. C'ha ragione lui. C'ha ragione lui su questo. Non dovevano essere difesi. Ha ragione lui su questo, in pieno, ha ragione lui. Però, mi scusi un attimo, Giovanardi, tra il caso Giuliani... su Giuliani ha perfettamente ragione. Giovanardi, non al 100, al 300%. Non al 100, al 300%. No, stai calmo, Giovanardi. Vabbè. No, ma che... quello sta con l'estintore, contro i poliziotti, poi c'ha ragione lui. Ho detto sto dicendo un'altra cosa. Non può paragonare... Parenzo, scusa un attimo, non può paragonare il caso Giuliani al caso Aldrovandi. Questo è un ragazzo... In che cosa paragono i due casi? Qual è il paragone? Nella mistificazione che ne esce, quando faccio l'esempio di questo dibattito sul reato di tortura, e vi prego andate... Sì, ma lasci perdere il reato di tortura, qui non si sta parlando... Ma non si sta parlando del reato di tortura, Giovanardi, si sta parlando di un'altra cosa. I giornali oggi non parlano d'altro. Vabbè, scusi parlano un attimo, di massacro, questo sindacato, perché non è stato massacrato questo ragazzo? No. Non è stato massacrato, vabbè. Voi l'avete detto la sentenza. sentenza. Ma la foto, la foto che ha fatto vedere la madre. Io sono andato, quella foto che ha fatto vedere la madre, una foto terribile. È falsa? La macchia rossa che è dietro è un cuscino. Cioè, lei sta dicendo fotomontaggio, è falsa, come dice quello del COISP. È vero, la foto è vera. L'avevano appoggiato la testa su un cuscino. Cioè, non è sangue, dice lei? No, non è sangue. Cioè, allora, ha fatto vedere, io non ho capito, siccome c'è una polemica sulla foto oggi. Ma neanche la madre ha detto che è sangue, e neanche lo può dire, perché non è così. Quindi, però, vede, lo stesso Cruciani, che vede le immagini televisive, la gente... No, no, io non ho parlato di sangue, io non ho parlato di sangue. Io sto dicendo che oggi... Io sto dicendo che oggi il capo del sindacato... Ma lasci perdere il professor Tiene, su, ma, ma c'è una condanna, o lei crede alla condanna oppure no? Ma infatti io dico, la condanna va rispettata, è omicidio colposo. Allora, siccome il capo del COISP... Per omicidio colposo vuol dire che la persona che ha cagionato l'evento non voleva cagionarlo. Non c'è nessun dolo, non c'è nessuna malizia, non c'è neanche la preintenzionalità. Ma guarda, omicidio colposo non è che sia una cosa... Non è che omicidio colposo sia un furto, non è che il furto... una persona è morta, Giovanardi. Ho capito che una persona è morta, ma anche un incidente stradale. Anzi, ci sono persone che, quando fanno un incidente stradale, magari ammazzano 3 o 4 persone. Ma non è come l'incidente stradale. Lei mi sta paragonando l'omicidio di una persona a un incidente... L'omicidio colposo. Ma è un omicidio, si chiama omicidio. Facciamo una differenza, visto che sono preoccupato per me, per i miei figli e per le persone che hanno diritto di essere difese in un mondo dove i pericoli e le possibilità di essere aggrediti sono tantissimi. Poi ci sono persone a cui fortunatamente, telefonando al 113, vengono in aiuto, una donna che viene stuprata, sì, la donna che sta per essere assassinata. Ma scusi, ma che c'entra? L'uomo che sta per essere rapinato, un attimo, che c'è il Presidente della Repubblica. Aggredito. C'è il Presidente. Un attimo, Giovanni, sentiamo insieme Napolitano. Sentiamo insieme Napolitano. Sembra muoversi la stessa pausa di riflessione che il Presidente ha deciso di... Ah no, era il registrato, scusate. Pensavo fosse la diretta, in realtà era le immagini che mandavano le televisioni satellitari di Napolitano qualche giorno fa. Comunque, Napolitano si prende momento di riflessione, bisogna vedere quanto dura questo momento. Però. Momento di riflessione, tutti a ragionare quanto durerà questo momento, tutta stasera, domani, chissà. Io non ho capito una cosa, Giovanardi. Lei ha detto prima che l'omicidio colposo è anche quello che si commette in auto, d'accordo, però c'è una differenza. Non è che non c'è una differenza. Cioè, in auto. Ma mica solo in auto, i casi di omicidio colposo sono tantissimi, lo può fare il medico che per imperizia. Il chirurgo che sbaglia con i bisturi e per imperizia non deve tagliare e cagiona la morte del paziente. È un rischio professionale. Però scusi un attimo, in mille professioni. La domanda, allora, io voglio capire. Torniamo al dunque: quando i carabinieri e i poliziotti intervengono e vengono chiamati, succede centinaia di volte, sì, e ci sono scene western fra persone che non vogliono essere arrestate, quindi per immobilizzarle. Vengono usati. Lei mi sta dicendo che è stata un po' colpa di Aldo Rolandi. Io vorrei che rispondesse a questa cosa: è stata un po' colpa sua? No, domanda. Ho detto che i poliziotti, i carabinieri che sono andati là potevano essere in qualsiasi altro posto, ma poiché li hanno chiamati, sono dovuti accorrere là perché la polizia e i carabinieri devono andare dove i cittadini. D'accordo, ma questo lo sappiamo, ma questo non cambia. Non è che non ci vanno più adesso perché sono stati condannati quelli là. Non è che non ci vadano più, però. Se passa il principio che in un momento di intervento e l'intervento puoi essere condannato, no, puoi essere. Io accetto anche che venga condannato, perché se poi al processo fra perizie e contro perizie è passata la tesi che tenendolo fermo in una certa maniera invece che in un'altra può capitare teoricamente, come è capitato, un collasso. Cioè, però lei mi sta dicendo sostanzialmente che i poliziotti. Però andiamo al sodo. Ma da questo a dire chi. E provoca una cosa di questo genere durante una rissa, durante ho capito. Con una deve andare persona, via dalla polizia, deve essere cacciato via dalla polizia e deve essere in qualche modo secondo lei non deve non devono essere cacciati dalla polizia, dunque è giusto andare a manifestare sotto il posto di lavoro della signora? Chiamate, io leggo quello che leggo, ho letto ieri da Pentito Salatto, che è un europarlamentare, per l'altra cosa è Flidi, che si è anche pentito di essere io sono andato là perché avevano chiesto l'autorizzazione, le manifestazioni a Ferrara le fanno sempre lì. Nessuno aveva niente da dire, nessuno, dice lui. Ma lo sapevano benissimo, c'era la madre ma che lavorava lì. Ma è stato giusto fare quella manifestazione? È stato giusto fare quella manifestazione contro il carcere? Ma la cosa mi sembra del tutto secondaria, perché se non vuole dire se è giusto polizia, o no. O dei sindacati che in concorrenza fra di loro fanno delle cose sopra le righe e che magari danneggiano gli stessi poliziotti che sono in difficoltà. Vabbè, quello è un altro discorso. Questo è chiaro che è una cosa in quale, ma Questo scusi un attimo, io voglio capire da lei, nulla, voglio capire, voglio, no, ma ho capito prima, benissimo, vuole equilibrio, ho capito, equilibrio. Ma questo qua sono stati condannati per omicidio colposo, hanno preso 3 anni e 6 mesi, sono stati in parte condonati, devono fare 6 mesi, e se facessero 6 mesi di prigione, allora, è morto un ragazzo, Giovanardi, su, andiamo. Ma lei risulta che per omicidio colposo in Italia si sconti il carcere dopo la condanna? Oh. E la risposta che mi dà è sì, allora sono d'accordo. Ma, capito, ma se vanno in carcere 6 mesi, vabbè, se la domanda è no, allora voglio che siano trattati anche loro come tutti gli altri. Vabbè, comunque, scusi un attimo, Giovanardi, io voglio capire una cosa. Aldrovandi, secondo lei, siccome ha descritto quello che è accaduto, ha una parte di responsabilità in quello che è accaduto? Aldrovandi, cioè, se non fosse stato alterato, se non fosse stato alterato, ha la responsabilità di una persona che aveva uno stato di esitazione psicomotoria, sì, che era determinata anche dall'ingerenza che agli atti del processo, anche dell'accusa. Dunque è anche un po' colpa sua, sì o no? È anche un po' colpa. Era una situazione di alterazione. Sì. Quella situazione di alterazione era stata segnalata da cittadini. . E purtroppo per lui, nel momento in cui sì, c'è stato questo scontro così duro, è anche un po' colpa sua. Una persona robusta. È anche un po' colpa sua. È accaduto imprevedibile. È anche un po' colpa sua, è imprevedibile. Uno può agire anche in maniera diversa e non provocare la morte di una persona. Non è che guardi, ci vado a lei la prossima volta. Io non faccio il poliziotto. I cani partono e davanti a una persona che devono bloccare, usate voi il sistema per bloccare la persona. Arrivando a determinare con sicurezza assoluta che quando avete una colluttazione non succede assolutamente niente. Se voi siete in grado di garantire questo, Giovanardi, però io la domanda è precisa, lei non mi ha risposto. Ha una parte di responsabilità, è anche un po' colpa sua, sì o no? No, ho detto che non poteva essere colpa sua perché lui era alterato e quindi non era in grado evidentemente di ragionare. Ho capito, però era meglio se non beveva. Allora, vede che le cose vanno messe nella sua giusta dimensione. Se continua a leggere che c'è stato un complotto, che quei poliziotti sono andati lì per dare una lezione ad Aldrovandi. Ma certo, è chiaro che è così. Ma è chiaro che sono andati lì apposta per sbeffeggiare o per fare una dimostrazione sotto l'ufficio dove lavorava. Sto parlando del caso, quando è accaduto lo scontro e i ragazzi. Ma no, ma adesso questo sono altre cose. È tutto pieno di questa teoria. Vabbè, ma lasci perdere le teorie strane. Restiamo ai fatti. Da Santoro, il mio amico Sgarbi, giustamente, quando la madre ha accennato queste cose, Sgarbi ha detto giustamente: scusi, sì, ma se fosse così, perché è andato soltanto omicidio colposo, sì, se ci fosse stato un criminale, e giustamente che avrebbero dato. Scusi, però io le voglio chiedere una cosa: la madre è troppo presente in televisione? Secondo lei c'è il rischio che finisca in a giudicare i sentimenti dei parenti, la giustizia o le terze persone? Perché chi è coinvolto? Ma c'è il rischio che finisca in Parlamento? E le mogli degli agenti coinvolti, o il papà e la mamma di Aldrovandi, è chiaro, sono tutti da rispettare nel loro sentimento. E vabbè, sono d'accordo. Le altre che dovrebbero avere, le altre persone che sono preoccupate invece dell'equilibrio generale, dovrebbero ragionare in termini tali. Però Giovanardi, io le voglio chiedere una cosa: secondo lei c'è il rischio che finisca in Parlamento la madre di Aldrovandi? Rischio che il Parlamento approvi delle norme, lasci perdere la tortura, bloccare nell'ultimo Parlamento, tipo quello sulla tortura, sì, vabbè, in un caso di questo genere provocherebbero per il lei è contrario a cose di questo tipo, l'ergastolo, d'accordo. Allora voi immaginatevi se passa una normativa che dice che se un carabiniere, questo l'ho capito, urbano interviene per bloccare una persona e succede che questa persona durante la colluttazione ha un infarto, va all'ergastolo. Scusi, Giovanna, io le ho fatto una domanda precisa: secondo lei la madre di Aldrovandi andrà a finire in Parlamento? No, perché abbiamo appena votato, quindi a prescindere da questo, ma il suo attivismo, le sue cose, questa foto eccetera. Attivismo, c'è un comitato Aldrovandi, Cucchi, Giuliani, andate a vedere dappertutto, c'è un'associazione. Ho capito, ma c'è, lei teme che vada a vedere al di sotto di questa associazione non mi vuole rispondere di impostazione che è quella anche di parenza, cioè di dire sono casi uguali, caso Aldrovandi, caso Giuliani, caso che sono esattamente uguali, che la dice lunga sulla posizione ideologica di questa associazione, che io rispetto. Ho capito, ma non condivido. Ma Cruciani non la condivide quando certo che non la condivido in una maniera più assoluta. Allora, dopodiché la domanda finale a lei è questa: facciamo ragionamenti diversi. La madre di Aldrovandi, interviste eccetera contro questi poliziotti che hanno manifestato, secondo me è sbagliatissimo manifestare, secondo lei no, pazienza. No, lei ha detto addirittura controproducente. Per il diritto di cioè, se dei poliziotti manifestano perché venga data gli arresti domiciliari ai loro colleghi, non vedo proprio perché in un paese democratico non lo possa fare. Ok, dunque è legittima la manifestazione, è anche giustificabile secondo lei? Ma scusi, lasciamo stare il luogo che non so, a Ferrara o... Beh, no, ma quello è importante, ripeto, sotto le finestre dove lavora la madre. Fanno una manifestazione pacifica. Pacifica, beh, certo, ci mancherebbe pure che fosse violenta. Modena, in una manifestazione pacifica, perché venga dato l'arresto domiciliare dei loro colleghi. Va bene, non ho capito. Che succede scandaloso in questo. Io voglio capire se secondo lei, e poi chiudo perché veramente abbiamo stufato tutti, se secondo lei c'è il rischio che la madre di Aldrovandi finisca in Parlamento. No, non c'è questo rischio, c'è un rischio in Italia molto peggiore, che sulla base di mettere uguali casi Giuliani, casi Aldrovandi, caso Cucchi, ci troviamo in Parlamento a far passare delle leggi che poi tutti i cittadini italiani pagheranno amaramente. Vabbè, quella sulla tortura non passerà. Nel momento in cui viene delegittimato totalmente. Va bene. Sì, chi deve rischiare la sua vita tutti i giorni per garantirci tutti. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Il sindaco di Salerno De Luca, senti quanto è spettacolare, eh? È spettacolare sulla Lombardi, il capogruppo alla Camera dei 5 Stelle. Ma ho visto queste immagini con la delegazione dei 5 Stelle, con la capogruppo alla Camera, quella signorina, e il capogruppo al Senato, quel signore, improbabile. Io avrei retto 10 secondi con quella signorina lì, 10 secondi, per il livello di supponenza, di presunzione che ha questa tipa che fa il capogruppo. Guardi, è una cosa intollerabile. Cioè, questa che si presenta come se fosse un premio Nobel, come se fosse Rita Levi Montalcini. Ehi! Ma ditemi se non è il numero uno. Ma questo è il numero uno. Ma ti rendi conto a cosa si è sottoposto Bersani per essere sbeffeggiato in diretta? Per essere sbeffeggiato dalla supplente di matematica? Ma dai, no, su. Ma Bersani dovrebbe prendere come suo portavoce il sindaco di Salerno De Luca. E ma io metterei De Luca al posto, io metterei De Luca al posto di Bersani, farei direttamente ho questo. Capito, ma in assenza di questo bisognerebbe scagliare De Luca. Ma dai, su, ma uno va ballata questa Lombardi che ti dice mi sembra di stare a Ballarò, e uno dice: senti, amica mia, mettiti un attimo da parte così. Ma uno non si sottopone a questa tortura dello streaming. Vabbè, sentiamo ancora De Luca. Ma cose. Io avrei voluto dire a Bersani: guarda Bersani, c'è una parola nel linguaggio italiano, nella lingua italiana, che è la parola dignità, che è un bene non negoziabile. Non si può tollerare la mancanza di rispetto da parte dei tuoi interlocutori. Questa che dice al presidente in carica: mi pare che stiamo a Ballarò. Ma va a morire ammazzato, e vattene, ma vai a andare avanti a fare due passi davanti a Montecitorio. Ma come ti permetti? È una cosa incredibile. Ah, ragazzi, ma è il numero uno! È il numero uno, è il mio mito! Io lo voglio votare ovunque si candidi alla regione. Se mi prendo la cittadinanza, se si candida alla regione Campania, come già si è candidato una volta e ha perso, io mi trasferisco in Campania. Tagliatemi quel pezzo, va a morire ammazzata. E vattene, ma vai a andare avanti a fare due passi davanti a Montecitorio. Ancora. Questa che dice al presidente in carica: mi pare che stiamo a Ballarò. Ma va a morire ammazzata, e vattene. Va bene, un attimo solo, Franco da Roma. Ma c'è una contraddizione però, perché... Aspetta, fermi tutti. Fermi tutti, vabbè, o adesso mai più. Ah però. Eh beh, aspetta che i collegamenti ancora... Stanno facendo cenno dal vetro, eh. Ho capito, però ci avete fatto mandare l'inno. Aspetta, Ecco, ok. Presidente... Caro Cruciani, che giornata! Lo so, Presidente. Com'è andata? È stata faticosa, è iniziata alle 11. Ma di più. Di più, A parte il fatto che la seconda, nell'arco di pochi giorni... Sì. Evito battutacce, ma... No, vabbè, se vuole, sa. Puoi immaginare che alla mia età... Beh, sì, 88 anni. Già la prima. Sì. Quindi... diciamo che oggi è stato veramente, veramente un calvario, sì. Non a caso è Venerdì Santo. Beh, non c'è dubbio su questo. Una passione. Una passione. Presidente, noi sappiamo che lei si è preso un momento di riflessione, grazie ovviamente per questo piccolo e riservatissimo, è ovvio lei non dirà... Ho dovuto prendere una logica pausa di riflessione, sì. Per valutare al netto, sì. Di tutta la confusione, perché la confusione è la peggior nemica della democrazia, sì. E della capacità di formare, beh, un governo, certo. In grado di, certo. Dare al paese un poco di serenità. Scusi Presidente, ma adesso alla fine di questa giornata lei in questo momento dove si trova? Cioè si è messo, si è sulla poltrona, un attimo di riposo? Sto un attimo proprio sul sofà. Sul dondolo, buttato sul sofà con i piedi sul tavolino. Pure addirittura, con le scarpe o senza scarpe, scusi Presidente. Beh, adesso sì, ha ragione, scusi, sto esagerando. Guardi, veramente stasera ci vuole una pausa di riflessione seguita da un adeguato momento gastronomico. Quello è chiaro. Che valga la pena. Quello ce cioè lei sta dicendo che il momento di riflessione però deve essere confortato da una cena come Dio comanda. Ma chi me lo a fine settennato, veramente un tour de force di questo genere non me lo sarei mai aspettato. Lo so. Io volevo dare un contentino a tutti, uscire avendo dato a Bersani un'opportunità, a Berlusconi un bel inganno, avrei voluto distribuire prebende e promesse, e adesso mi hanno stretto in un angolo. E deve tirar fuori un nome pure, Presidente. Infatti stavo meditando di procedere anch'io con le consultazioni con le parti sociali. No, quello forse di dare quindi non è incarico, sì. al leader, al forum del terzo settore. Adesso lei è ironico, giustamente, ma ci leggo anche una pizzicata, un pizzico di critica nei confronti di Bersani. A questo proposito, Presidente, scusi, ma come è andato l'incontro di ieri? Perché ci sono molte illazioni su questo, no? Ci sono molte illazioni. Qualcuno dice un incontro tranquillo, altri dicono un incontro nervoso. Beh, insomma, ci può riassumere proprio in pochi secondi, proprio con le sue. Nel modo in cui sa fare lei. Diciamo che ho pettinato Bersani nonostante la capigliatura scarsa. Veramente non sapevo più che tirargli a coppa. Io non capisco come ci si possa far prendere in, sì. giro in questa maniera. Voler a tutti i costi andare avanti, sapendo che non si è in grado. Ma questa è una cosa pesante, Presidente. No, ma è un dato di fatto. È un dato di fatto. Poi non si capisce più niente. Abbiamo questi partiti nuovi, abbiamo SEL, che nomi nuovi, persone che non conosco bene, sì. Insomma, dove sono i politici di una volta che si incontrava, quattro chiacchiere, due battute, una celia, e poi si chiudeva con qualcosa che già si aveva definito in partenza. E invece qui è un casino. Scusi, sì. Per chiudere, Presidente, poi la lasciamo perché sta per scoccare, sì. L'ora, sono le 20:25, so che lei a quest'ora con Clio... Siete già coi piedi, com'è che si dice? Sotto la tavola, ecco. La signora Clio è là che elabora questa sera Sartù di riso. Sartù di riso. Questo si vuole, lo capisco. Un'ultima cosa. Sì. Prego. La telefonata con Grillo di oggi, com'è andata? L'ha mandata, cioè, vi siete riconciliati? C'è un rapporto migliore rispetto a prima? Com'è la storia? Ma guardi, abbiamo assolutamente ritrovato un'armonia piena, sì. Anche perché devo dire che non escludo a questo punto che, diciamo, il partito scoperta, il movimento nuovo, possa effettivamente maturare un'opportunità. Addirittura? Ma non è che vi siete messi a parlare di cucina pure, no? Perché pure lui è una buona... Assolutamente sì, ma questo fa parte di una nuova intesa. D'altronde ho notato che anche il signor Grillo, uscendo dal Quirinale, ha rivisto una posizione critica, certo. Che io ho apprezzato e ho valutato come una presa di coscienza di una possibile, sì. guida del paese. insomma, dobbiamo dircelo, Bersani ha preso una facciata incredibile, Grillo è il nuovo elemento, a Berlusconi manco morto, per cui io direi che Grillo o comunque un nome suggerito, una figura di alto profilo, certo, ma suggerito dal nuovo movimento, potrebbe essere una soluzione adeguata. Vabbè, sapremo tutto domani. Presidente, buona cena. Sono... Il Sarturinese, Cruciani, sì, e Parenzo, sì, vi dico già che vi aspetto, terminata questa buriana, avrei veramente piacere, io e la signora Clio, di avervi ospiti al Torrino. Beh, certo, Presidente, bello. Forse sarebbe il caso quando lei esce dal Quirinale. Saremo sicuro, se paga lei, no, il conto, Presidente. Ma una cenetta prima, una cosa intima. Per carità, noi siamo sempre... appartamenti del Quirinale. Siamo sempre qui. Con piacere. Grazie, ci sentiamo domani quando lei farà la conferenza stampa. Anche se qualcosa Parenzo ci ha anticipato, cose clamorose. Critiche pazzesche nei confronti di Bersani, ma io voglio sentire va a morire ammazzata di De Luca alla Lombardi, ma è geniale, io la voglio come sigla. Ma va a morire ammazzata e vattene. Ma è il numero uno, sono entusiasta. Ma va a morire ammazzata e vattene. Franco da Roma, buonasera. Franco, vada. Ma caro Cruciani e Parenzo, no? Sì. Cioè, io sono veramente appassionato di Radio 24. Sì. Lo sento giorno e notte, no? Sì. Molto male, molto bene. Sto scherzando. Date un'informazione veramente eccezionale. Io sto in macchina con i ragazzini. Sì. E si sentono dire i cazzi, il bacio in bocca, i vaffanculo, il stronzo, sì, quelle cose lì. Ma che state a combinare? Ma scusi Franco, cioè, ma l'ha sentito, a parte che non è finita qui, ma l'ha sentito il sindaco di Salerno adesso? Il sindaco di Salerno? Certo, del Partito Democratico. E allora cosa che se la prende con noi? Ma che significa? Va a morire ammazzato, si dice pure a Roma quando uno dice... Ah, va a morire ammazzato, va bene, eppure invece stronzo e cazzo no. No, stronzo e cazzo no, ma morire ammazzato invece va bene. Ma scusami tanto. Ma Roma, quando uno dice che sei rotto, sei scato, cioè, ma va a morire ammazzato, va. Ma non è un'espressione normale. Beh, lo insegni a suo figlio, allora lo dica a suo figlio, lo dica ma a suo figlio. Perché non dice a suo figlio a 7 anni, 8 anni di dire va a morire ammazzato a qualcuno? Ma lascia stare queste cose qui al mio figlio, gli imparo pure altre cose che penso. Però scusi, per Franco. Però scusami tanto, Sì, ma i cazzi, stronzo, quello, quell'altro. Ma come si fa, insomma, la radio così? Cioè io dico una cosa, no? Ma poi da bocca tua a bocca di quell'altro. Oh, ma finché voi intervistate qualcuno mettete pure il bip, no? Ma che si fa? Allora come? Ma come si fa? Ma andiamo avanti a forza dei cazzi, a forza dei stronzi. Ecco perché gli dava rotoli. Capito? Perché questi qua. Ma allora c'è ragione il sindaco De Luca a dire va a morire ammazzato, no? A chi? A questi qua? Come si fa? Ma andiamo avanti a forza dei cazzi, a forza dei stronzi. Ecco perché gli dava rotoli. Ma va a morire ammazzato e vattene. Le zanzare di casa mia. Franco, allora? No, quello che volevo dirvi, no? Cioè tu dici insegnala a tuo figlio cose varie, ma non ho capito, cioè io a mio figlio insegno cose, ma pure voi, cioè attraverso la diffusione, attraverso quello che è la radio è una cosa importante. E no? Allora? Allora io quello che volevo dire, no? Ma non c'è un altro sistema per poter comunicare. Ma il cazzo, lo sai che cos'è? Oddio mio, ma lei dice di non voler pronunciare le parole e poi le pronuncia, Franco. No, io ho pronunciato io tra virgolette perché non ce le posso mettere, così, no? Capito? Capito qual è il discorso? Ma allora, secondo voi, no? È un modo. Lei non sa quello che l'aspetta adesso. A me. Lei non sa quello che l'aspetta fra poco, non si preoccupi. Resti... Ma perché quell'altra pure che sono intervistata che è Movimento 5 Stelle, quella lì che... Ma chi? Quella che diceva che faceva l'attrice, quella lì, che parlava di quello, di quell'altro, sempre con sproloqui e queste cose qui. Ma come si fa? A Crociano, ma qui bisogna impararsi pure a campare, oh, ma siamo in un tempaccio, sti ragazzi bisogna farli crescere sani. ma che vanno? Vanno a scuola e cominciano a scrivere quello, quell'altro e quest'altro, a scriversi in questa maniera. Forse questo è il problema, guardi la Ma il problema sono tanti altri, però se ha capito, mi padre mi diceva che da figura nasce figura. Cioè quando uno mette il semetto lì, quello che ci mette nasce, capito? A forza di sentire queste cose, poi vanno avanti, poi e che succede? Lamentiamo. E che succede? Ce lamentiamo poi, capito? Che vengono fuori i cetrulli, capito? Questo è il discorso, capito? Bah. Ma io no, te lo dico con tutto il cuore perché io vi apprezzo, vi stimo, anzi... risento anche la vostra trasmissione dopo la mezzanotte perché sento la Rosciani, quell'altro è veramente una radio interessante. Vabbè, allora... a parte quell'incidente lì di quel Giannino lì, quello lasciamo da parte, quello ha fatto quello che ha fatto. Vabbè Franco, la ringrazio moltissimo, l'abbraccio, grazie. Non mi moleste moschito. Ma va a morire, ammazzare il vattene. Antonio dalla provincia di Brindisi, buonasera. Sì, buonasera. Vada. Buonasera a tutti. No, niente, ieri era depressissimo Parenzo. Volevo farne una punturina. No, ma non era depressissimo, era stanco. Su, era stanco. Ah, sono depresso, sono... Pronto, andiamo, su. Sono arrivato in albergo alle 11:10. Lo so, te la sei voluta tu, Antonio, vada. Sì, no, io pensavo invece che siccome avevano fatto i tagli al partito del 75%... Ma che ne sa, Parenzo, ma che gli frega, amica del Partito Democratico, no. Non è mica dipendente del PD, su, abbia pazienza, dai. No, vabbè, magari, che ne so, amicizie, visto che fa così le parti del PD alla grande. No, guardi, a dirla tutta, se vuole saperla tutta, io ho preso i soldi solo da Di Pietro, se vuole saperla tutta. L'abbiamo già detta questa cosa. Come? No, l'abbiamo già detto una volta quando si è andata a presentare. Ma io lo voglio ricordare perché non me ne frega assolutamente nulla, visto che è tutto pubblico. Ho condotto una serata anni fa che si chiamava Il dittatore del Bunga Bunga, dove ho prestato la mia opera facendo questa conduzione di una roba a Bologna, dove c'era il Pala Mobi, il Pala Sport pieno, stracolmo, e mi hanno pagato. Quindi per fare un'iniziativa di partito ho moderato un dibattito pubblico dove ho preso dei soldi dall'Italia dei Valori, soldi denunciati, ha capito? Non mi rompete più i coglioni con la storia del Partito Democratico e Parenzo di sinistra. Non ha mai basta. Preso un euro dal Partito Democratico, questo io lo so, ma anche se l'avesse preso chi se ne frega, cioè, non... No, ma io dico che quando li ho presi lo dico, ma perché è dichiarato, è pubblico, non ho mai nascosto niente. Mirella da Genova, buonasera Mirella. State a rosicchiare. Ma cosa stiamo a rosicchiare? Ma sì, ma voglio dire che si vada a votare subito, così invece di 8 milioni diventiamo 10. Ma lei è grillina? Assolutamente sì, amore mio, e come potrei non esserlo? Beh, come potrebbe non esserlo? Ci sono anche, c'è la possibilità che qualcuno non voti Grillo, lasciami parlare, per favore. Io conosco Grillo da tantissimi anni. Ha un'etica profonda. Vabbè, ma io vorrei ricordare. C'è un sacco di gente che ha un'etica profonda. No. Il movimento l'ha creato lui. Ma che certo allora, che l'ha io creato vorrei ricordare, lui? Che vuol dire? Sì, io vorrei ricordare che Grillo è stato cacciato 20 e passa anni fa dalla televisione quando diceva, vi ricordate? Vabbè, ma che vuol dire? Social, come cosa vuol dire? Ha rinunciato a milioni. Grillo, sì. E ha un'etica profonda, quindi la mia stima e il mio affetto per Grillo. Quindi sti partiti che stanno a rosica devono farsene una ragione, perché si vada a votare subito, li mandiamo a casa, sì. E poi faremo quello che dobbiamo fare. Va bene, grazie Mirella. Lei sta godendo come sta godendo. Sì, cosa mi vuoi fare la domanda? Vada oltre. Sto godendo come una matta. Assolutamente sì, scherza. Meglio di un orgasmo, dice lei. No, vabbè, quello no. Con lei non lo so. No, con che c'entro io, scusi? Lei che mi sta Ma adesso non metta in campo cose che non c'entro. Senta un po'. Io vorrei dare tutta la mia solidarietà alla Susi, che non ha bisogno di solidarietà. Però ma che c'entra? Dire. La Susi è la nostra... Susi, ma 20 euro per fare le cose che fai, figlia mia. Ma non ci sta, non sta né in cielo né in terra. Ma scusi, ma se uno vuole fare. Scusi, se uno vuole fare quelli che vengono chiamati in gergo pompini, cioè lavori di bocca. Cioè, ma non per a 20 euro. Euro, ma non a 20 euro, ma ti prego, ma ti prego. Signora Mirella, Mirella, scusi, abbia pazienza. Ma che Mirella, il mercato è mercato, Mirella. Il mercato è mercato. Ma dai, ma Susi, ti più, ma di più con quello che è in goi, figlia mia. Ma beh, con quello adesso, che è in goi, adesso, figlia mia. Adesso, cara Pirella, entriamo in un terreno molto minato. Lei non mi trascini là, perché sennò io trascino una discussione su terreni che poi ci porterebbero molto lontano. Dai, comunque, lei dai, dà, lei dà un consiglio alla signora Susi, si faccia pagare di più. Però il problema ma certamente è che... sì, ma 20 vabbè, euro, ma 20 euro per fare quello che fa, ma povera persona, ma dai, ma poi voglio dire uomini che si lavano. Ma che ne sai che non si lavano? Non è che i camionisti, sono... Non è che i camionisti sono sporchi per forza, se non mi faccio... devo difendere i camionisti, A Crucià, e non mi mette in bocca parole che non beh, gli uomini che non si lavano, scusi. Ho detto semplicemente che se stai sulla strada incontri qualunque tipo di soggetto, quindi il soggetto che non si lava, vabbè, quello bello, quello vecchio, quello no. 20 euro? 20 euro? Io da donna dico 20 euro? Ma Susi, tesoro mio, ma fatti pagare di più. E poi... Tanto per andare in alto, dal basso, basso per modo di dire, pare sia in arrivo una presa di posizione ufficiale del PDL sulle consultazioni. Ormai è una specie di romanzo, non dico criminale, di romanzo quirinale, di romanzo governo, cioè è una roba assurda. Solo in Italia ci può essere una situazione di stallo, ma abbiamo con noi Eva Robbins, buonasera! Buonasera, ma che argomentini che toccate! Beh, noi siamo un po' otto. Eva Robbins, si... uomo o donna intanto? Qualsiasi tu mi voglia. Cioè, può essere uomo. Che tu vuoi, un po' pirandelliana. Può essere uomo. Vasto e può essere donna. Diciamo. Sono 1.100.000. La grosse coalizione. Cioè, vaste programme. Vaste programme, dice Parenzo in tedesco, ma non lo sa il tedesco, signora Robbins. Comunque, no, lei si sente un po' tutto, un po' uomo, un po' donna, ma poi queste distinzioni, diciamo la verità, no? Cioè Robbins. Ma queste cose poi si vedono nell'intimità. Nell'intimità. Adesso la mia è un po' pubblica. Sì. Per cui però. Com'è che lo chiama lei il suo organo sessuale, signora Robbins? Ma guardi, l'adurso si ricordava Pippo. Pippo, in sì. In realtà. Invece? Quello là. Quello là. Ma da qualche... quello là. Ho letto Robertino da qualche parte, no? Ma c'è sì, ancora. Sì, sono tutti insomma per cercare di minimizzare ma è vero che lei avrà un modo in cui lo chiama no? Oppure non, o sono ma gli non altri? Lo chiamo non lo chiama nessuno, lo ignoro ogni tanto lo ignora lo glorifico, dipende che c'è Parenzo, dimmi da Israele questo, che cioè, no, mi veniva in mente questo, secondo lei ci sarà un motivo se il signor Napoletano 24 ore sì. Non intervista mai la signora Eva Robbins? C'è un motivo secondo Napoletano? Beh, dovrebbe il signor Napoletano direttore del Sole 24 ore dovrebbe, che oggi ha titolato contro la Zanzara basta sì. Giochi, e invece io titolo contro titolo della Zanzara viva i giochi. Ma giochi... di parole? Di tutto, vive i giochi della politica, dico. Non parliamo di politica perché sono completamente all'asciutto. No, ma nessuno la vuole far parte di politica, però di politici sì, ecco, di politici interessante. Lei ha mai avuto una relazione con un politico, anche di breve durata, anche di pochi minuti? Ma sono cose che si fanno e non si dicono. Beh, no, però ho capito. No, non occorre il nome, ho capito, mio caro. Non occorre nomi, non occorre nomi. Sei tu che mi proteggi le spalle quando esco di casa. Beh, chi l'ha detto? Potrei ma anche proteggerla, dal punto di vista, come dire, del mediatico. Sei là, mediatico. All'oscuro, e non appari nemmeno in video. È vero. Però non facile, così. Beh, però non creda, la nostra è una... Non creda. Ha mai avuto rapporti con... creda. Ha mai avuto rapporti, che dici, Parenzo? No, se ha mai avuto rapporti con il signor Casaleggio, ad esempio. Ma che c'entra Casaleggio? Non lo conosce nemmeno? Ma dai, su queste domande su formaggi? No, Casaleggio è il guru di Grillo. Casaleggio è quello del questo è interessante, che produce formaggi è stupenda, perché effettivamente Casaleggio sembra una marca di formaggi. Scusi, signora Robbins, però la domanda iniziale mia è questa. Lei a me... sì, diciamo, la risposta è sì. Ho avuto diverse relazioni con politici da... No. Per carità, smentiamo assolutamente queste voci. No, sono stata corteggiata, ho incontrato nei salotti, come capita a tutti, ma così si presentava, poi c'era l'imbarazzo, poi c'era la gomitata. Però era molto corteggiata, molto corteggiata dai politici. Ancora, ma credo. Quelle corteggiano un po' tutte, dipende. Sì. Però c'era la cosa, no? No, adesso ormai è diventato il prurito, del trans, diciamo, no? Prurito, sì, ma sì. Ma sì, ma sono talmente poco appetibili. Lei dice, sinceramente, stuzzicano molto poco. E poi, secondo me, con tutti quei problemi così di visibilità e, sì, e problemi effettivi devono avere anche molto più problemi nella zona parietale. Ah, problemi, lei dice, devono essere anche scarsi, devo dire, dal punto di vista sessuale, eh? Secondo me sì, sì, sì, devono avere delle prestazioni fiacche. Di Berlusconi si favoleggia, ma Berlusca si sa che usa i pulsanti. Che sono i pulsanti, certo, scusi? I pulsanti, cioè? Parliamo per metafore, dai. No, beh, pulsanti sa, sono tante cose, possono essere, usa i pulsanti. I pulsanti della pompetta, dice lei? Lei. L'ho detto io, l'ho detto, tu sei pulsante, dunque? E per cui sì, beh, poi adora guardare mentre le ragazze si trastullano, no? Si trastullano, sì, lei dice, sì, ma lei per esperienza diretta lo sa? Per esperienza letta. No, per esperienza letta è un altro discorso, ma per esperienza diretta, cioè lei ha mai frequentato il signor Berlusconi? Ma gli ho detto di no, non l'ho mai incontrato neanche quando l'ho visto. Allora come fa a sapere? Come fa a sapere? Ma le dico che l'ho letto. Vabbè, e poi ho anche amiche. Ah, amiche che hanno frequentato il signor Berlusconi. Dunque una cosa de relato, ma sono interessanti le cose de relato, per carità. Per cui secondo lei in realtà è tutta una leggenda questa cosa di Berlusconi, cioè lui piace soprattutto guardare, giusto? Beh, sì, guardare e fare regali, no? Da quello che fare regali. Sente. Per cui l'attività sessuale di cui lui si vanta ogni tanto sono tutte chiacchiere. Non esiste. Ma lui si vanta anche di prodezze sessuali, non credo. Sì, no. Sì, sì, in privato, sì, a voglia. Sì, ah, sì, in privato. Si raccontano, privato. Si raccontano anche cose leggendarie, no, da parte di queste ragazze. Insomma, questi pulsanti serviranno a qualcosa, no? Cioè, o no? Ah, a saperlo. Mai fatto uso di pulsanti o di qualcuno che ne avesse. A saperlo. Beh. Abbiamo il traffico. Eva Robbins, recentemente intervistata dal mitologico Giancarlo Dotto per Diva e Donna, ha detto: Carmelo Bene mi accoglie nel suo letto, al buio la sua mano cerca il mio sesso. Sai che me l'ha strappata questa cosa, non doveva scriverla. Eh beh, intanto gliela strappata, è stato bravo. Io doverosamente cerco il suo, attimi di silenzio, lui, non sappiamo più chi siamo, io, due belle oche morte. Finisce così, platonicamente. Quanti anni fa, signora Robbins? Carmelo era ancora un birbante, per cui nel periodo del Macbeth, cioè? Si parla di un bel po' di anni fa, io non so fare di conto. Beh, lei oggi ne ha 54? Quando... 90. Quanti era? Quanti ne aveva? 34, 20 anni fa? Sì, può essere. Può essere. Sì. Macbeth. Ma scusi, lei ogni tanto ha qualche, come si dice in gergo, Parenzo, dimmelo tu? Qualche? Ere, come si dice? Sì, quella cosa lì, signor Robbins, ce l'ha ogni tanto o no? Beh, capita. Sì, capita, poco, sì, c'è poco. Qualche rimasuglio di virilità, sì. 20 euro? 20 euro? Io da donna dico 20 euro? Ma Susi, tesoro mio. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. In Israele sono le 23, dov'è Parenzo? Io sono molto contento di costringerlo a questo tour de force, un po' mi dispiace in realtà perché è un amico, però se l'è voluta lui, io pensavo che fossero le 10, non so perché, avevo fatto questo calcolo, invece lo rinchiudiamo, lo incateniamo fino alle 23. Ma va a morire ammazzato e vattene. Ma chi, io me ne devo andare, De Luca, scusa, no, lei lo diceva la Lombardi, no a me. Vabbè. Comunque, so che ci ha chiamato il senatore Manconi, che voleva fare delle precisazioni. Purtroppo questa sera non abbiamo tempo, la trasmissione ci ha portato verso altri lidi. Grande ascoltatore della Zanzara, il senatore Luigi Manconi, nonché compagno, marito, non so che cosa, del direttore del TG3, Bianca Berlinguer. No, lo dico così perché sono due persone che stimo tantissimo. E perché non hai mandato in diretta Manconi? Sei un cretino. No, ho capito, però in questo momento ci sono delle cose che vanno fatte. Voleva precisare, immagino, delle cose sulle sciocchezze dette da Giovanardi. Voleva dire delle cose sull'intervento di Giovanardi, che alcune cose gravi, alcune cose pesanti dette da Giovanardi. No, molto vicenda. Molto gravi. Vabbè, molto gravi, adesso vedremo. Giovanardi, tra l'altro, come dire, c'è la memoria, ci sono dei cadaveri ancora lì. C'è un agente di polizia che ci ha chiamato, però, signor Robbins, un attimo solo, Roberto da Milano che ci ha chiamato. Roberto, dica. Ti attendono. Buonasera. Vada. Buonasera, volevo esprimere la mia assoluta solidarietà con tutte le vittime di qualsiasi genere di omicidio doloso, compreso e a maggior ragione, sì, per la madre del ragazzo ferraese, che mi fa a volte vergognare di quanto viene detto in generale. Ma lei ha sentito l'intervento di Giovanardi? L'ho sentito assolutamente. E che cos'è che la fa indignare? Ma guarda, tutto. Mi fa indignare una cosa la disinformazione che viene data quando io non sono un tecnico giuridico, faccio solamente questo lavoro, ma digitando qualsiasi sul motore di ricerca più famoso si vede che molte persone sono andate in galera per omicidio colposo, quindi la sua teoria che se qualcuno commette un omicidio colposo non va in galera non è invece è immediatamente smentita. Va bene, grazie Roberto. Siamo con Eva Robbins da Bologna. Dove abita lei, signor Robbins? In centro storico. Centro storico di Bologna? Sì. Parenzo? Che fai? No, dico... Qual è il politico che le piace di più dal punto di vista sessuale, signor Robbins? Gliel'ho detto che sono inappetibili, sono inchiavabili. No, ma ce ne sarà uno. Ma trovo molto più simpatiche le signore che sono in politica. Ah, perché lei ama molto le donne, ma sì. Sì, mi sono più simpatiche per alleanza. Ma lei è fidanzata, ha una storia? Non ci penso neanche, ma neanche. Neanche. Farmi massacrare di botte da un cretino. No, ma perché uno per forza deve essere massacrato di botte? Scusa, ma perché sono birichina. Perché lei è traditrice proprio di sono di... birichina. No, ma io non tradisco nell'animo, io tradisco nella carne. Beh, nella carne, per quello dicevo, sì, certo. Ma nella carne. Ma Cruciani, scusa. Io sono abbastanza simile alla signora Robbins. Una però. Signora come la Robbins. Che è stata a letto senza fare nulla con il grandissimo Carmelo Bene, uno dei più grandi uomini del teatro. Abbiamo dormito insieme. Hanno dormito. Puoi chiedergli se gli piace una persona come Cicchitto, ad esempio. Cioè, ma che c'entra Cicchitto? Adesso tu te la prendi un Cicchitto. No, ma neanche questi politici italiani, cosa gli frega lei che ha avuto contatti con questi uomini di spettacolo, cosa vuoi che si occupi di Cicchitto, la signora Robbins? No, però voglio capire, siccome mi pare di comprendere, signora Robbins, che a lei piacciono molto le donne, no? Ha avuto relazioni anche con donne lunghe, no? Cioè... Sì, ma vorrei un attimo... Sai com'è in francese? Sai come si dice? Io sono un alleato delle donne, dell'emisfero femminile. Sì, però ha avuto anche delle relazioni, da quello che ho letto. Sì, sì, ho avuto le mie relazioni, anche più lunghe a volte che con gli uomini. Sono molto più soddisfacenti quelle con le donne, diciamo, di relazioni. Sono più complete, diciamo. Più complete, sì. Beh, sì, più complete. Più complete. Ma le donne che cosa amano? Le donne mi hanno elevata, sì. Gli uomini mi hanno distrutta. Ma le donne, ecco, alle donne cosa piace della signora Robbins di lei? Le piace? Ma tutti sono insieme. Per esempio, il suo organo sessuale piace molto alle donne oppure no? Il sessuale è un dettaglio che via via poi lo scoprono, poi sono molto avanti. Diciamo, è la cosa minore. Minore, non, sì. Non è che si avvicinano a me per quello. No, per una similitudine, perché vedono un figlio, vedono un'amica, e c'è una complice, sì. E poi ridono molto, perché insomma abbiamo dei punti di vista trasversali. Però ecco, io vorrei tornare alla questione, ecco, le donne, la donna politica che la affascina di più, con cui avrebbe che lei si porterebbe a letto, diciamola tutte, signora Robbins, una donna politica. A letto non mi porterei, cioè, una donna, farei un riposino. Un riposino, diciamo, con Eva Robbins non è proprio, uno pensa, no, Eva Robbins è un riposino, non esagerare. Beh, insomma, sì, insomma, coricate, coricate con un po' insieme. E poi, vabbè, quello che viene, dopo viene. Dopo pranzo. E quello che viene, viene. Mi faccia due nomi, va là. La Carfagna, c'è una Carfagna. Oh, lei è meravigliosa. È meravigliosa, con lei, non so, andrei anche, che ne so, in una spiaggia a Cap Dag, ecco. Beh, Cap Dag, io lo so perché lei vuole andare a Cap Dag. Non è che sto qui a pettinare le bambole io, signora Robbins. Amica mia, a Cap Dag è un posto eccezionale. Con la caravagna, È un posto eccezionale, Porterei... Che c'è lì? Beh, Parenzo, ma tu che ne sai? Ma che ne sai tu? No, è una domanda retorica. Ma che ne sai che c'è? Lo sappiamo io, signora Robbins. Una volta lei non lo sa, ma io l'ho conosciuta a Formentera. Cioè, l'ho conosciuta che meraviglia, ma eravamo da mitici? Eravamo col signor Giovalli a Formentera, lei non si ricorda, forse sì. Avete avuto anche un rapporto? Ma Satrincia dove? No, a Satrincia no, siamo conosciuti sempre lì in quella spiaggia. Ma non avete avuto un rapporto? Ma no, Satrincia è Ibiza poi, a Formentera no. No, c'è anche un posto che si chiama Satrincia. Secondo me avete avuto un rapporto. Ma non abbiamo avuto nessun rapporto. Solare. No, non abbiamo, lei ha avuto un rapporto con altre persone che conosco io, però lasciamo perdere questo aspetto, non è importante. Però adesso la signora Carfagna, anche con te. Un'altra donna bella in Parlamento, chi c'è? Anche con te, ma lei lo nega, capito? Ma non ha avuto nessun rapporto con me, te lo posso perché assicurare. Vergogna, io, In assoluto io voglio chiamare ogni sera signora Robbins, fare un punto sulla situazione. Fare un puntino. Un puntino. Un'altra donna, su, un'altra donna parlamentare. Sono bellissime donne in Parlamento, sono donne meravigliose, soprattutto portate da Berlusconi, come lei sa. Buon gusto. Senta, me ne faccio un altro di nome. Lo so, chi c'è ragazzi, chi c'è? Aiutatemi. Sono digiuna. Chi c'è? Carfagna, Carfagna è il top. Carfagna è il top. No, la Mussolini, che c'entra? La Mussolini, Ma la Mussolini è simpatica, eh? Simpatica. Farei veramente una gita con lei. Una gita, sì. Una gita, sì, una camminata sulle Alpi. Una camminata sulle Alpi. Invece con chi c'è? De Girolamo, Nunzia De Girolamo. La conosce, no? No. Non sa chi è. No. Vabbè, questo no. Lo posso capire. La Presti Giacomo. Presti Giacomo, sì, la sì. Presti Giacomo... Bionda, no. Siciliana, siracusana... Sì, ho capito chi è. No, non c'è nessuno. No. Ciao Robbins, l'abbraccio fortissimo, grazie, a presto. È stato un piacere, Zanzaroni. Ci sentiamo la settimana prossima, saluti, tesoro. Saluti, cara, alla prossima. Come stai Parenzo? Tutto bene? Scusa, mi hai trattenuto fino alle 11, lo so. Senatore Manconi, quando vuole, la settimana prossima, se ci sarà il momento, se ci sarà l'occasione, non siamo responsabili. Questo sarebbe importante. Non siamo responsabili di quello che dice il professor Giovanardi. Ma va a morire, ammazza e vattene. Radio 24. La passione si sente. Ma va a morire, ammazza e vatti.